Si può fare. L'attualità anche d'estate di Alessio Maurizi. Buonasera cari ascoltatori, eccoci qua a 18, 20 e 30 all'orario Si può fare l'attualità anche d'estate. Aspettiamo i vostri interventi, cominciate a prenotare al numero verde 800 24 00 24 come ogni sera, con anche le nostre buone notizie con cui ci lasciamo prima di ogni pausa, e poi avremo la bella storia come sempre alla fine della puntata. Carlo Gabardini, buonasera. Buonasera. Sempre da Luino. Luino. Sul set del tuo film, quanto durerà questa lontananza? E grazie a questo collegamento che devo fare in radio mi hanno dato un camerino che ha la metratura direi di un appartamento di 120 metri quadri. Quindi ti siamo stati utili. Esatto, sono a Palazzo Verbagna a Luino, sì, dove c'è anche la mostra di Danio Migliore che si chiama Logos Mania, così faccio anche un po' loco come lo chiami tu. Ecco, non abbiamo capito che mostra è? Una mostra di quadri di Danio Migliore. Ma la dici dal così titolo per... Logos Mania. Ma lo dici così per dire, oppure ne vale la pena? Tu l'hai vista? Non l'ho ancora vista, ma da diciamo la brochure che ho in mano direi che ne vale proprio la pena. È interessante. Bene, allora ricordiamo i nostri contatti se volete interagire con noi, cari ascoltatori, in tempo reale su Twitter. Il mio account è @ Ale Maurizi, quello del programma è @ Si può fare 24. Carlo Gabardini. Con quanti follower adesso sei? Gabardini. Quanti follower hai, Carlo? 25.000. E rotti. Vabbè, sono tanti. Se c'è qualcosa su Twitter, io ogni tanto te lo chiedo. Tu spara qualcosa. Io quello non riesco qua molto, perché no? I miei potenti mezzi sono un telefonino. Vabbè, ma sei inutile praticamente stasera. Sei lì da solo, nel camerino, senza Twitter, senza collegamenti. Vabbè, vediamo. Cominciamo con i titoli. Sky TG24. La Camera riapre per il femminicidio, ma all'appello rispondono solo in 100. In aula va in scena lo scontro tra la Boldrini e i 5 Stelle. La decadenza di Berlusconi, il PDL è pronto a ricorrere in consulta. Sul blog Grillo scrive un finto discorso di dimissioni del Cavaliere. In Egitto arrestato il leader dei Fratelli Musulmani, dal carcere dove è rinchiuso presto potrebbe uscire l'ex Rais Mubarak. 5.000 evasori totali scoperti dalla finanza nei primi 8 mesi dell'anno, nascosti al fisco oltre 17 miliardi. Gli sbarchi senza sosta sulle coste italiane, oltre 600 migranti soccorsi oggi tra Lampedusa, Porto Empedocle e Siracusa. 800.000 euro in eredità alla sua perpetua, congelato dal Tribunale di Brescia il lascito del parroco alla donna moldava. Blitz dei temporali sull'agosto dei vacanzieri, allagamenti a Roma dopo una breve tregua. Nuove piogge nel weekend. E si accendono i riflettori sulla Champions, stasera il Milan in Olanda sul campo del PSV per l'andata dei playoff. In Parlamento sono più di 600, noti avvocati, imprenditori stempiati, pornodive che lavorano per te. Guarda da grande, farò il parlamentare. Giornata di oggi, chiudo Presidente, mediamente potrebbe costare a conti fatti spannometrici 150-200 mila euro tra trasporti, tra servizi offerti dalla Camera dei Deputati eccetera. Probabilmente noi saremmo stati più d'accordo nel dare questi soldi ad esempio ai centri antiviolenza. Grazie. Ma lei ha capito che è un obbligo essere qui? È la Costituzione che ce lo chiede entro 5 giorni. Cosa parla di sprechi? Questo è un esercizio democratico. Raggiungiamo l'orgasmo con il palo bipolare dentro al PIL. Di quali temi volevamo parlare, colleghi? Cioè, era solamente una comunicazione, dovevamo parlare di quale tema dovevamo parlare? Grazie. Veramente mi spiace che il livello sia questo, mi spiace veramente. È un atto dovuto, costituzionalmente dovuto, dovevamo farlo. Se non l'avessimo fatto non avremmo rispettato la Costituzione. Mi spiace veramente che si ricorra a questi espedienti, non è segno di maturità. Dura, durissima polemica del Movimento 5 Stelle, soprattutto, ma adesso sentiremo anche della Lega, nei confronti del Presidente della Camera, Laura Boldrini. Polemica annunciata per questa convocazione della Camera dopo Ferragosto per incardinare la legge sul femminicidio. Avete sentito i toni? È un obbligo di legge, avete capito di cosa stiamo parlando? Un obbligo della Costituzione, dice la Boldrini. Ma per il Movimento 5 Stelle sono 150.000 euro buttati via. Una seduta dove erano presenti poco più di 100 parlamentari e dove è avvenuto questo, c'è cioè un dibattito surreale praticamente sul nulla. Un atto dovuto, può darsi, però insomma non è stato sicuramente un bello spettacolo. Ci si è messo anche Buonanno della Lega ad attaccare durissimamente Laura Boldrini. Deve andare al mare, dove deve andare? Questo le sto chiedendo, cara donna Frassede, perché poi lei, visto che mi scrive continuamente, signor... Colleghi, lo sappiamo, non sa esprimersi senza offendere, non sa esprimersi senza offendere, continui. Non è un'offesa, caro Presidente, si legge Promessi Sposi, non è un'offesa, donna Frassede è un personaggio dei Promessi Sposi. Sua eccellenza sta in disparte, cerca la sua cassaforte. Non ha voluto neanche finire la carta del presidente precedente, perché si fa chiamare e stampare la presidente. Se finiva magari prima la carta del il presidente, faceva una buona azione, non è che cambiava niente, ma è un segno di come lei interpreta. Deve il suo concludere, ruolo, terminato il suo tempo. Deve concludere, deve concludere. Concluda, concluda. Si dia una calmata e faccia veramente il presidente, perché lei è il peggiore. Concluda. Il presidente della Camera peggiore. È scaduto il suo tempo. Quanto meno il portaborsa 800 24 00 24. Atto dovuto, seduta necessaria per incardinare la legge sul femminicidio, oppure, cari ascoltatori, una buffonata, una pagliacciata, una spesa inutile, come dice il Movimento 5 Stelle o anche la Lega, che attaccano duramente la Boldrini. Devo dire che la Boldrini mi fa un po' di tenerezza, perché forse dovrebbe tirare fuori un po' più le unghie per combattere anche lei in Parlamento, perché c'ha questi personaggi che la accusano, in qualche caso anche la insultano e comunque la tirano in ballo fortemente. Lei ha questo modo un po' così, un po' indolente. Forse sarebbe necessario tirar fuori le unghie e rispondere da pari, se lei ritiene che le sue argomentazioni siano quelle più giuste. 800 24 00 24. Carlo? Mi sembra anche divertente il fatto che, come difesa di dire che donna Frassede non sia un insulto, dice perché è un personaggio dei Promessi Sposi, che non è che regga molto, perché anche Bocca di Rosa è un personaggio di una canzone, eppure se dice qualcuno Bocca di Rosa, comunque voglio dire, faceva la prostituta, non è che è un altro. Questa digressione letteraria non è male. Giusto? Poi se vuoi aggiungere qualcosa, qualcos'altro sul anche contesto. Satana è un personaggio della Bibbia, eppure qualcuno si può offendere se dai a qualcuno di Satana. Ma donna Frassede, si può aggiungere qualcosa su questa figura? Perché Buonanno ha tirato fuori lui, che fra l'altro viene dalle valli, credo, piemontesi, insomma non proprio vicino al lago di Como, di Lecco, però i Promessi Sposi sono un po' il romanzo dei Lombardi. Gabardini, su donna Frassede vuoi dire qualcosa? Assolutamente no, la terza media, quindi sono ignorante. Come dicevi prima tu, sono assolutamente inutile. Cioè, l'intervento era pertinente, però ci fermiamo qua. Allora salutiamo intanto, che ci ha raggiunto, Matteo Salvini, europarlamentare della Lega Nord. Buonasera Salvini. Buonasera a voi, io preferisco Via del Campo se devo scegliere. Perché adesso questa incursione musicale? A proposito di Bocca di Rosa e di donne di presunto malaffare, Via del Campo è eccezionale da questo punto di vista come canzone. Perché? Perché rappresenta una donna che si vende, ma che cos'è? Più ingenua, più... Dipinta in maniera poetica come mai nessuno né prima né dopo De André è riuscito a fare. Quindi... Salvini, che tra l'altro sulla sua homepage di Facebook c'ha Libertà e partecipazione di Gaber, cita De André, così, tutti i status symbol della sinistra, ma i classici della sinistra, però... No, bene, De André era un anarchico, no? Sì. Non è annoverabile né a destra né a sinistra, così come Gaber ha fatto alcuni pezzi, sì, come sì. Qualcuno era comunista che a sinistra hanno fatto rabbrividire. Però la musica non ha colori per quanto mi riguarda. And now, the good news! Nel Varesotto c'è un comune che riesce a pagare i fornitori entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, almeno per le spese più contenute che non rientrano nel patto di stabilità. Si tratta del comune di Comerio. Vicino al lago si va controcorrente. 800 24 00 24. Cari ascoltatori, cominciate a prenotare i vostri interventi, più avanti cominceremo a sentire le vostre telefonate. Intanto insieme a Matteo Salvinero, parlamentare della Lega Nord, dicevamo la questione, però ecco, insomma, c'è un braccio di ferro della Lega, è più col Ministero dell'Integrazione o proprio è il ministro Chieng che non vi va giù perché è di colore, per esempio, e voi avete detto che questa è solo una foglia di fico? No, guardi, il ministro Chieng potrebbe essere alta, bionda, con gli occhi azzurri ed essere nata a Stoccolma, ma quello che per noi come Lega è un problema sono le sue idee, nel senso che quando un ministro dice che l'immigrazione clandestina non dovrebbe più essere considerata reato e ipotizza di omaggiare con la cittadinanza chiunque nasca in Italia, va contro la nostra storia, la nostra cultura e va contro il futuro. È la richiesta degli stessi immigrati regolarmente presenti in Italia, che hanno fatto le trafile, hanno pagato, si sono integrati, hanno rispettato la legge, quindi potrebbe essere, ripeto, di razza ariana, ma il problema è il contenuto di quello che dice, non è il colore della pelle da cui ma parte. La raccolta di firme per abolire il Ministero dell'Integrazione va avanti? Non è ancora partita, non è ancora... perché vogliamo fare le cose seriamente, ci stiamo lavorando, partirà in autunno. Sì. Siamo da europarlamentare, sto cercando altri paesi europei che abbiano identico ministero e fatico a trovarli, perché l'integrazione si fa con i fatti, si fa col lavoro, si fa con la conoscenza reciproca, non con le polemiche, non con l'ipocrisia e non con un ministero o dei decreti legge. Ministero, tra l'altro, questo bisogna dirlo senza portafogli, tra l'altro. Però sulla questione, per esempio, dei bambini nati in Italia figli di stranieri, anche Napolitano era intervenuto al suo tempo. Zaia, qualche sera fa, ai nostri microfoni, ha detto lo Ius Soli non se ne parla. Luca Zaia, presidente del Veneto. Però, al momento dell'iscrizione, per esempio, alle scuole elementari, anziché ai 18 anni come avviene adesso, potrebbe essere una proposta per agevolare l'integrazione di questi bambini che stanno in Italia da anni. Lei che ne pensa? È d'accordo con Zaia? Ma guardi, si può discutere di tutto, basta che non si prenda in giro la gente. In un momento di... quest'estate c'è il record storico di sbarchi. Ecco, già in un momento complicato, se un ministro della Repubblica Italiana si permette di dire, ormai con le televisioni e con le radio, adesso ci stanno ascoltando anche dall'altra parte della terra, che in Italia si potrebbe immigrare illegalmente senza essere puniti e si potrebbe avere la cittadinanza al solo atto di nascere qua, si rischia di fare del male sia agli stranieri. No, però questo non lo dice più neanche lei, credo, perché lo Ius Soli è stato detto temperato, quindi diciamo... Sì. Lo dice a targhe alterne, mettiamola così. Comunque siamo disponibili a discutere di tutto, non mi sembra la priorità, onestamente. Stamattina guardavo le statistiche sulla disoccupazione in Lombardia, siamo arrivati a 407.000, 407.000 fra italiani e stranieri. La priorità mi sembra il lavoro e la riduzione delle tasse, non la cittadinanza, con tutto il rispetto. Ma questa, per esempio, invece il tema della Bossi-Fini e la questione dei CIE, dopo quello che è successo in Calabria, il fatto che la Chieng dice bisogna cambiare la Bossi-Fini, voi siete ovviamente contrari, anche perché l'ha firmata il leader della Lega, ma al di là di questo, però che effetto le fa invece Mara Carfagna del PDL, sua ex alleata, che dice non bisogna avere paura dell'immigrazione, bisogna gestirla, la legge va cambiata perché è vecchia? Noi non abbiamo paura di niente, le leggi vecchie vanno cambiate a partire dalla Costituzione, sono pienamente d'accordo, non è che la Bossi-Fini siano le tavole di Mosè e così è e così resta. Va aggiornata sicuramente dal mio punto di vista in senso più restrittivo e concreto, nel senso che vanno facilitate e velocizzate le espulsioni, perché questo è il problema, che oggi è una legge applicata per metà, perché molti giudici trovano il cavillo dello stato di povertà, dello stato di malattia, dello stato di qua e dello stato di là per non procedere con l'espulsione. Quindi la Bossi-Fini si può cambiare, ci sono due modi per cambiarla: o svaccare e quindi renderla inutile e aprire porte a tutti, oppure aggiornarla e renderla più rispondente alle necessità di oggi. Io ricordo a chi ci ascolta che la Bossi-Fini non è un'invenzione italiana, la Bossi-Fini è stata una ripresa semmai più soft delle legislazioni che ci sono ovunque in Europa, dalla Svizzera all'Austria, alla Germania, al Belgio, per non parlare dell'Australia o del Canada, voglio dire. Quindi non è che ci siamo inventati qualche cosa di pestifero o particolare. Il tema delle espulsioni, cioè che dovrebbero essere più veloci, perché quant'è il tempo che adesso si può stare in questi centri di detenzione? 18 mesi, se non ricordo male. Fino a 18 mesi, sono sì, tanti. Il problema è che ci sono 1001 cavilli, lo potranno testimoniare magari i poliziotti o i vigili urbani o i carabinieri che ci stanno ascoltando, per cui anche chi deve essere espulso poi non viene espulso. Perché sì, ci sono tanti casi. Ma di chi è colpa dei magistrati, secondo lei? Sì, la legge in Italia non si applica, ma si interpreta, quindi basta. Ma non è colpa magari anche delle leggi che non sono abbastanza chiare? Le leggi però le fanno i politici, non lo so. La legge dice che l'espulsione è fatta in questi termini. Sì. Se poi il clandestino, aiutato dall'associazione XY, perché diciamocela tutta, ci sono decine di associazioni di pseudo volontariato che campano sulla pelle e sulle spalle dei clandestini, porta al motivo, ci sono sentenze, il clandestino dice che è povero, non può essere espulso perché a casa sua non potrebbe sopravvivere, il clandestino dice che è omosessuale, non può essere espulso perché nel suo paese verrebbe perseguito, il clandestino dice che è malato, non può essere espulso perché nel suo paese non può essere curato. Voi capite bene che anche la legge più intelligente del mondo, se inizia a trovare cavillo dopo cavillo, non serve a niente. Però, Salvini, lei dice le associazioni di volontariato, non so, la Croce Rossa, altre, che campano sulle spalle degli immigrati. La Croce Rossa no, è per carità di Dio. No, perché è una di quelle... Bravo, esatto, però è la legge che prevede che siano loro a gestire i CIE. No, non parlo di chi gestisce i centri di accoglienza e di espulsione, perché anzi... giù il cappello, perché si dannano l'anima per aiutare anche questa gente. Parlo di qualche pseudo buonista che campa con i finanziamenti pubblici per accogliere e far arrivare e mantenere questa gente. Però magari su una cosa con il ministro potete andare d'accordo, sul fatto che lei ha detto anche lei che bisogna chiedere aiuto all'Europa, ormai lo dicono, forse lo dicono tutti. Cioè... È 5 anni da quando Maroni era ministro degli interni e faceva i respingimenti, però chiedeva giustamente un aiuto economico all'Europa, che ci facevano pernacchie a Bruxelles, ed è 5 anni che io lavorandoci continuo a convincermi sempre di più che questa Europa non sia la soluzione ai nostri problemi, ma sia il nostro problema. Però scusi, ma forse anche il fatto che l'Italia da anni che chiede, insomma da anni, non tutti, a dire la verità voi siete stati tra i primi a dire questa cosa, prima in solitudine, poi adesso... in compagnia, il fatto che non si riesca a porre come tema europeo questo della frontiera sud del Mediterraneo è anche un insuccesso nostro, italiano, non contiamo nulla in Europa, o no? Ma in Europa comandano la Germania e i paesi del nord, ma da tutti i punti di vista, quando si tratta di distribuire i fondi per l'agricoltura, quando si tratta di difendere il Made in Italy, il tessile, i pomodori, la pesca, la caccia, il riso, comanda la Germania con i suoi satelliti del nord Europa. Sull'immigrazione non fa eccezione, noi da questa Europa abbiamo solo da smenarci, e dal mio punto di vista questo euro, io sento anche parecchie opinioni contrastanti su Radio 24, vi ringrazio perché fate un servizio che la RAI non fa, questo euro secondo me è la fregatura più solenne degli ultimi 50 anni. Vabbè, adesso il tema dell'euro però non è che è più difficile da mettere in trattativa, perché l'euro è una pietra miliare a questo punto del percorso, semmai sono cose... può darsi che sia anche una pietra al collo, però uscire dall'euro è più complicato, chiedere a Bruxelles di finanziare per esempio dei pattugliamenti o delle postazioni lungo la costa italiana, questo potrebbe essere più semplice forse. Ma questo dovrebbero farlo in 3 minuti, se volessero farlo lo potrebbero fare in 3 minuti, Se da anni non lo fanno è perché non lo vogliono fare, se ne fregano evidentemente. Senta Salvini, facciamo l'interattività, ci scrivono al 349-238-6666, chieda al leghista cosa ha fatto per l'occupazione, visto che i problemi sono quelli per lui. Guardi, l'ultima vertenza aziendale che sto seguendo è quella della AGFA di Manerbio, 123 famiglie che rischiano di rimanere in mezzo a una strada per una multinazionale belga. Ci siamo attivati come Regione Lombardia, il 3 settembre a Roma ci sarà un tavolo col ministro Zanonato, e la stiamo seguendo anche a Bruxelles, quindi se riusciremo, come mi auguro, a salvare questi 123 posti di lavoro, spero che l'ascoltatore venga a offrirmi un caffè. Senta Salvini, non possiamo non parlare però anche della situazione politica nazionale, anche se l'europarlamentare. Dopo la condanna di Berlusconi, lei aveva detto, speriamo a questo punto che il governo, che voi osteggiate, il governo Letta Alfano, cada. Cosa succederà invece, secondo lei? Il PD tenderà la mano a Berlusconi? Io continuo a ritenere utile che il governo cada, perché è un governo che non può fare niente, stanno litigando su tutto. è ovvio, PD e PDL litigano sulla giustizia, sulla legge elettorale, sull'IMU, sull'IVA, sulla TARES, su tutto. Secondo me non cadrà per un interesse economico ben preciso, che è quello che questo governo ha il mandato, dal mio personale punto di vista, di svendere gli ultimi pezzi di industria sana che ci sono in Italia. Penso all'ENI, all'Enel, a Finmeccanica e ad altre aziende che fanno appetito all'estero. Ma svendere a chi? Svendere a chi? All'estero? C'è la fila in borsa fra in Germania, dall'altra parte dell'oceano. Basta andare a guardare che fine hanno fatto le altre pseudo privatizzazioni. Quindi secondo me lo spread terrà in vita questo governo fino a che non avrà smantellato tutto quello che rimane da smantellare, purtroppo. Senta, ma invece, ma secondo lei, lei cosa consiglierebbe di fare a Berlusconi? Lo conosce, insomma, di chiedere la grazia e di entrare in questo percorso che gli ha delineato Napolitano, di pacificazione, però diciamo chinando il capo, oppure di rovesciare il tavolo? Non mi permetto di dare consigli a Berlusconi, non so se sia colpevole o innocente, mi scuso, ma sta passando il trenino dei bimbi qua in piazza Vezza d'Oglio e quindi vabbè, sentirete, è sopportabile, sentiamo un fischio, è colpa della Proloco, però i bambini si divertono. Meno male. Ma secondo me una certa sinistra ha nel DNA proprio, non so se l'odio sia una parola grossa, però escludo che una certa sinistra possa mai arrivare a dialogare e a ragionare seriamente né con Berlusconi né tantomeno con una forza come la Lega Nord, quindi escluso che ci possano essere pacificazioni, quindi come lei... ne verranno fuori non lo so, secondo me, ripeto, qualcosa si inventano, perché purtroppo il governo a breve non cade e continuerà a non fare niente come non sta non facendo niente da alcuni mesi. Ma se lei fosse Berlusconi chiederebbe o no la grazia? Per fossi in Berlusconi io probabilmente no, perché lo conosco poco, non l'ho mai incontrato di persona, lo adoro come presidente del Milan perché mi ha fatto vincere tutto dal punto di vista politico, alcune cose le abbiamo fatte insieme, altre soprattutto nell'ultimo periodo a Roma sono da dimenticare visto che stanno votando tutte le porcherie possibili e immaginabili, io non la chiederei, io andrei fino in fondo e voglio vedere un certo tipo di giustizia, un certo tipo di magistratura fino a dove arrivano. Vabbè, la magistratura a questo punto credo che sia fuori tocca al Parlamento esprimersi. Poi c'è la questione dell'incandidabilità, vabbè, dell'ufficio elettorale che dovrebbe dare un giudizio su questo. Ma immagino che coerenza, sì. Coerenza vorrebbe che Berlusconi la grazia non la chieda. Ah. E invece c'è questa intervista, so che lei è favorevole a Tosi come candidato per il centrodestra, il sindaco di Verona, suo collega di partito, però Bossi ha detto meglio Marina Berlusconi. Le beghe interne che ormai fortunatamente stanno finendo in Lega penso che interessino poco, io ho conosciuto Tosi come sindaco e ha cambiato Verona da cima a fondo, quindi va bene, facesse, va bene Tosi. Se facesse l'amministratore del paese come ha amministrato Verona, penso che i veronesi all'ascolto anche di sinistra possano testimoniare che male non sarebbe, e da leghista ovviamente preferisco un leghista alla figlia di Berlusconi. Grazie a Matteo Salvini, buona serata, buona estate. A voi un abbraccio. And now the good news. A Catania, in un quartiere difficile, i ragazzi dell'associazione Andrea Stimfel hanno trasformato un terreno abbandonato nel loro campetto da calcio. Lo hanno fatto da soli, nonostante l'assenza delle istituzioni. Le reti delle porte sono quelle dei pescatori, ma per i ragazzi del quartiere è meglio del Maracanã. (800) 24 00 24, abbiamo Francesco che ci chiama dalla provincia di Bari. Buonasera, benvenuto Francesco. Buonasera signor conduttore, buonasera. Eccoci qua, niente. Prego. Senta, io volevo solo fare un piccolo appunto, ma questi dirigenti, io sono simpatizzante, sì. Un militante, poi ho chiuso con le tessere perché un po' di delusione l'ho presa. Sono un militante. Cioè le tessere di cosa? Scusi Francesco, di cosa le tessere? Sì. Le tessere di cosa, Francesco? Io avevo la tessera al Partito Comunista, cioè 68 anni. Adesso mi sono stufato di questo PD, così molle, così ce l'hanno sbeffeggiato questi signori di destra, chiamandoci coglioni quando siamo andati a votare a sinistra. Dico io, adesso vedo un tentennamento. Adesso Napolitano è bravo, quando gliel'hanno detto di tutti i colori, un comunista, al Quirinale, vogliono comprarsi il nostro Presidente della Repubblica. Ma dico io, solo questo e poi chiudo. Un po' di coerenza questi dirigenti la devono avere verso i loro elettori e non tergiversare sempre. Ma coerenza cosa vorrebbe, secondo la sua versione, niente, Francesco? Far applicare la legge che la Cassazione ha stabilito. Io non sono esperto di giurisprudenza. Senza l'eleggibilità. Perché lei invece dice che se lei vede il PD che a settembre tenderà la mano a Berlusconi? Oggi la dichiarazione di un sì, dirigente. L'onorevole Giorgio Tonini, che ha detto un supplemento di istruttoria sul caso Berlusconi in giunta, se il PDL lo chiede, ma ci può stare. Ma non si vergognano, sono stati sbeffeggiati da questa destra arrogante. È un po' di coerenza, un po'. Si prendesse la responsabilità di far cadere il governo. Noi cittadini siamo capaci di risorgere in Italia. Va bene, grazie Francesco. Francesco, buona serata. Voi siete molto gentili. Mi avete acculturato con la D24. Addirittura, grazie mille. Buona serata. Enrico da Firenze, prego. Buonasera. Eccoci. Dunque, io ho sentito tra le prime notizie più che notizie, quell'intervento che c'è stato alla Camera, o quello scontro, diciamo, che c'è stato alla Camera. E sì, mi chiedevo semmai a uno dei politici, una volta che questo si fosse liberato da qualche velo di ipocrisia che tutti li ricopre, perché di questo si tratta, se uno dei loro parenti fosse, anzi delle loro parenti, fosse stata poi, che ne so io, maltrattata, bistrattata, anche assassinata, perché no, non che uno se lo auguri, intendiamoci, se avrebbe avuto la stessa reazione. Questa è la prima domanda che volevo porre un attimino a qualcuno, però una risposta un tantino anche seria, se mai qualcuno saprà darla e vorrà darla, è anche un tantino leale. E poi un'altra cosa, semmai, sì, è questa, diciamo, disponibilità a essere un tantino più favorevoli a un Berlusconi, andare oltre come faceva presente chi mi ha preceduto da Bari, ci vorrebbe sicuramente una maggiore serietà, essere un tantino più pronti a negare eventuali istruttorie aggiuntive, anche perché, come diceva Salvini, coerenza vorrebbe, ma dove sta la coerenza che vorrebbe, come si suol dire, quando va bene, il tema importante che lei ha sollevato, grazie Enrico, è quello che ha detto prima, cioè chissà se questi esponenti del Movimento 5 Stelle o della Lega che hanno criticato la Boldrini hanno avuto, o se avessero avuto, dei casi di aggressione a donne in famiglia, se si sarebbero comportati così, perché ricordiamoci che si votava proprio questo, cioè si sanciva l'incardinamento, è stato detto così. Io era la prima volta che sentivo, perché è capitato ad agosto, la prima volta che capitava ad agosto che un disegno di legge necessita di questo passaggio, ma insomma la legge era quella, sbandierata, se ne è parlato molto, quindi resta da capire se, come accusa il Movimento 5 Stelle, questa della convocazione della Camera è stata più che altro una parata per far vedere che si lavora, oppure se, come invece dice la Boldrini, era un atto dovuto. Però si sa che su queste cose si può giocare sempre di interpretazione, quindi chi lo sa. 800 24 00 24, dove andiamo? Paolo che ci chiama da Novara, buonasera. Buonasera, salve. Prego. Volevo dire due cose rapidissime. Per quanto riguarda il governo Letta Alfano, molti commentatori, anche che poi la maggior parte sono, a mio giudizio, in malafede, tutti sanno come stanno le cose, ma ci ricordiamo quello che è successo? 2 mesi persi da Bersani, completamente incapace, dopo che il PD ha perso le elezioni o comunque non le ha vinte in condizioni incredibilmente vantaggiose che non so se capiranno. Però perché ci sta ricordando quella fase? Quella fase lì? Questo perché sembra il governo Letta fa poco, produce poco e voglio dire, alternative al momento non ce ne sono, mi sembra. Perché i 5 Stelle sono completamente inaffidabili, è poco che siamo qua a discutere. Non si conoscono neanche uno con l'altro, sono gestiti da due, Grillo e Casaleggio, che sono esterni al Parlamento, comunicano via blog, cioè, con tutto rispetto, non mi sembra fattibile, cioè sarebbe all'interno dei 5 Stelle ci sono idee completamente diverse l'uno con l'altro, nessuno lo dice. Sono stati inseguiti per due mesi da Bersani, umiliandosi, ha ragione Renzi quando dice è stato umiliato, insultato e continuava ad andare lì a incontrarli, eccetera. E voglio dire, mettiamola, l'unico governo è questo. Se si tornasse. Ho capito, il suo ragionamento. Vabbè, questo però è in politica è sempre tutto, come dire, un po' flessibile, un po' magmatico. Non è vero quello che. Cioè, non è che siccome venivamo da un periodo di incertezza, adesso il governo Letta è l'unica certezza. No, e poi la questione è se tornare alle elezioni o meno. Quindi non è trovare un'alternativa più di tanto con questi parlamentari, ma di far cadere il governo e molto probabilmente andare a nuove elezioni. Esatto, Gabardini si è risvegliato. Ci sono stati echi dalle tue parti lì sul set del film Il Pretore, a questa convocazione estiva della Camera che ha fatto molta polemica? Avete letto qualche notizia? Assolutamente no. No, echi no, assolutamente, perché poi stiamo lavorando di notte, quindi assolutamente direi che non ci stiamo molto occupando di informazione. Ma state sempre però girando... Anche su quella questione, in realtà mi sembra che non è che ci sia una questione che la Lega non sia o il Movimento 5 Stelle non siano interessati alla legge sul femminicidio, ma sul fatto che contestassero che convocare una riunione ad agosto fosse solamente, diciamo, una facciata, un fatto di propaganda. Però conta anche il merito, no, della questione, cioè era stata convocata per questa cosa del femminicidio, che era stato ritenuto da molti una cosa importante, e poi certo, al momento di farlo c'è stata questa reazione, vabbè. Sì, è che lì è sempre un po' è la questione delle priorità, è come Salvini che ha detto sì. Ah, io non capisco lo ius soli e la condizione degli stranieri in realtà non è una priorità, perché la priorità è il lavoro, che possiamo anche essere d'accordo a dire il vero, però il ministro Chieng è il ministro dell'integrazione e si deve occupare di integrazione, mica di lavoro, quindi ognuno fa il suo lavoro. Fa il proprio lavoro. Hai sentito ieri sera l'intervista al sindacalista di Modena sulla Firem che è sparita di notte? Nottetempo? Carlo? No, a me lo chiedi? Sì, sì. No, che non l'ho sentito, ho sentito un pezzo, ma però ieri ero sul set, adesso, quindi diciamo... Adesso sentirai tu e gli ascoltatori gli sviluppi di questa vicenda, perché dovremmo avere un'intervista importante. And now, the good news! Dall'Università di Pisa arriva la T-shirt intelligente, che grazie a sensori ed elettrodi monitora lo stato emotivo dei pazienti psichiatrici. Il progetto, che coinvolge 10 paesi europei, sfrutta un'innovativa tecnologia sviluppata da una società di Navacchio, vicino Pisa. È la maglietta della salute mentale. Che avevo un rapporto quasi da padre e padrone all'interno dell'impresa. Non è un caso l'affermazione di oggi sui giornali: io in casa mia faccio quello che mi pare. Adesso questa è stata un po' l'affermazione che oggi c'era sui giornali. Ma voi non avete avuto avvisaglie di nessun tipo? No, i lavoratori addirittura nel mese di luglio hanno fatto degli straordinari comandati dall'impresa, perché c'era tanto da lavorare, e si sono salutati il 2 di agosto dicendoci riposatevi, state in ferie, riposatevi. Nessuna comunicazione 26... ai sindacati, niente? Assolutamente no. Su questa musica da giallo, da storia civile italiana, abbiamo risentito le dichiarazioni del sindacalista della FIOM, Piazzolla, che ieri sera ci parlava del caso Firem, l'azienda di Formigine in provincia di Modena, che non c'è più al momento. E noi abbiamo invece il titolare della Firem questa sera, Fabrizio Pedroni. Buonasera. Buonasera. Intanto grazie per essere venuto a raccontarci la sua versione. Ha sentito quello che diceva Piazzolla? Cioè, intanto l'azienda al momento, lei ci conferma, non c'è più sul sito di Formigine. Non è vero, la Firem esiste ancora. Però non è a Formigine. No, non è più a Formigine, è a Modena, una parte è a Modena e una parte è in Polonia, la parte produttiva in Polonia, la parte amministrativa, tecnica e commerciale in Italia. Ok, quindi avevate già una sede a Modena? No. No, abbiamo trasferito gli uffici a Modena. Uffici a Modena. Quindi questa, diciamo, è una notizia che ci sta dando, cioè non c'è più la sede di Formigine, c'è un trasferimento in Polonia agli impianti produttivi, credo. Chiaro, sì, solo impianti produttivi, sì, impianti produttivi sono qui in Polonia. E la parte amministrativa a Modena, ma quante persone di quelle che erano impiegate prima? Erano una quarantina, credo. Diciamo che 40, erano circa 40, sì. operai impiegati. Attualmente a Modena rimarranno circa 8-10 persone che sono commerciali, amministrativi e reparto tecnico. Ah, ma queste persone quando lo hanno saputo che sarebbero dovute andare a Modena a lavorare anziché a Formigine? Queste persone, è scritto ormai, ne stanno parlando tutti, hanno iniziato a ricevere le lettere oggi e quindi l'hanno imparato ufficialmente oggi. In realtà il sindacato l'ha imparato martedì scorso. Però non ha detto nulla, però lui ne era a conoscenza, martedì lui ne era già a conoscenza, signor Pizzolla. Perché lui dice, ora glielo facciamo sentire, che lei ha detto già sui giornali che è venuto tutto alla luce del sole, invece i sindacati dicono no, che i camion circolavano anche di notte. Sentiamo un pezzettino della voce di Piazzolla, della FIOM e poi Pedroni di nuovo. Noi la sera del 13 di agosto siamo venuti a conoscenza per via traversa del fatto comunque che stavano succedendo delle robe non consuete all'interno di questa impresa. Ci siamo precipitati qui e abbiamo constatato che l'azienda era completamente vuota, tranne l'ultimo camion che stava uscendo col materiale. Siamo riusciti a bloccare l'ultimo camion di materiale, sì. E da quel momento lì i lavoratori stanno presidiando lo stabilimento, che è formalmente vuoto con questo camion dentro. Perché loro dicono che non hanno avuto nessuna avvisaglia, perché insomma è ovvio che un'azienda, lei il titolare, decide di traslocare e lo può fare, è successo anche altre volte, però loro dicono che non avete avvisato nessuno. Ma scusi, se io avessi, provate a farvi questa domanda un attimo, se io avessi avvisato la FIOM, avessi parlato con la FIOM, con Pizzolla, e gli avessi detto, caro signor Pizzolla, io ho intenzione di trasferire la mia produzione in Polonia, cosa avrebbe fatto signor Pizzolla? Non so, si sarebbe aperta un'avvertenza, come no, succede? No, ma avrebbe bloccato, ma avrebbe sequestrato i miei beni, bloccando lo stabilimento, come sta facendo in questo momento, che sta sequestrando un camion che non è di proprietà della FIRA, non è di proprietà della FIOM, ma è di proprietà di una società polacca. Quindi lui ha sequestrato lì un mezzo, lo sta tenendo sotto sequestro e questi sono... Però scusi, questo è il risultato, Pedroni, è il risultato però del fatto che lei appunto non ha aperto nessuna trattativa, nessuna avvertenza, nessuna discussione. No, mi scusi un attimo, se io aprivo la trattativa... Cioè, non è bello alla notte di Ferragosto scoprire che non ha più il lavoro? No, io di notte non ho fatto niente. Io di notte, vede come sono informati? Allora, io sono 3-4 mesi che passo, maggior del mio tempo, che ho passato più tempo in Polonia che in Italia. I sindacati sapevano che noi stavamo iniziando un qualcosa in Polonia, non sapevano di che genere, però sapevano che a breve avremmo iniziato un'attività in Polonia. Poi un bel giorno, all'ultimo minuto, ho dovuto fare delle scelte, ho dovuto trasferire tutto, ho dovuto fare questo. Quindi il sindacato, se avessi detto col sindacato, sarebbe lì venuto lì davanti, mi avrebbe picchettato l'azienda. Come oggi non sono più padrone di entrare in casa mia, perché io oggi non posso entrare in casa mia, nel mio stabilimento, io non ci posso più entrare. Perché? Perché me lo vietano. No, ma a casa sua, perché a casa sua non lo fanno entrare? Proviamo, vuol venire con me, proviamo a entrare, vediamo cosa succede, Ma a casa sua dove? A Modena? No, nello stabilimento di Modena. Però io scusi, scusi. Pedroni. Non c'è dialogo con la FIOM, non c'è dialogo. Questo l'abbiamo capito, questo, però perché lei ha trasferito la fabbrica? Perché a quello che dicono sempre i sindacalisti, poi abbiamo sentito, che glielo facciamo sentire, un consulente che dice di aver lavorato con lei fino a poco tempo fa, l'azienda andava bene, andava a gonfie vele, c'erano addirittura gli straordinari a luglio. Sì, però ho sentito cosa ha detto Pizzolla, straordinari, cosa ha detto comandati, cosa vuol dire? Se un imprenditore deve arrivare a comandare gli straordinari. Significa che all'interno dell'azienda non c'è collaborazione, le persone non avevano capito che fuori ci sono aziende in crisi, che chiudono, che hanno problemi. Io devo comandare, ma sai che è una parola orrenda? Però la sua azienda non era in crisi. No, la mia azienda no, di lavoro no, assolutamente no, però non facevo più margine. Cioè non stava più guadagnando, c'era lavoro, andava avanti ma non ci guadagnava più. Le spiego anche il perché, è molto semplice. I miei principali concorrenti, che sono due, uno è in Romania ormai da 5-6 anni, un altro in Polonia da 7-8 anni, ci stanno facendo una guerra sui prezzi che il mio destino erano tre le strade: o chiudevo, o prendevo la strada che ho preso, o se no c'era un'altra che tutti quanti ci stiamo dimenticando, sì, quella di spararsi in testa, come stanno facendo, come hanno fatto tanti imprenditori. Io non mi sparo in testa. Vabbè, però adesso, Pedroni, io capisco che, cioè, gestire un'impresa è una cosa che non è facile, anzi, da questo punto di vista, tutto rispetto per chi in questa situazione fa l'imprenditore, naturalmente. Però se lei, la sua azienda non era in difficoltà, non era a livello di doversi sparare in testa, insomma. No, era intenzione finanziaria sicuramente. Io erano anni che non facevo, che non guadagnavo più una lira, e questo significava non poter investire all'interno dell'azienda. E se non investo all'interno dell'azienda, i miei concorrenti mi spiazzano. Scusi, da quanto tempo l'azienda è sul territorio? Lei l'ha ereditata dal padre, o ho capito male? Il nonno, e poi io e mia sorella. Perché il discorso che fa sempre, glielo facciamo sentire, Pizzola, dice loro si sono in questi anni arricchiti, adesso era il momento di tenere un po' duro. Sentiamo. Il territorio che in questi 50 anni in cui la firma ha lavorato ha dato tanto alla Fiera, visto che questo territorio ha permesso anche ai padroni della Fiera di arricchirsi negli anni d'oro, quindi non mi sembra giusto e corretto che nel momento di difficoltà... Perché l'azienda è andata bene e i proprietari si sono arricchiti? Sono ricchi i proprietari della Fiera? Ma questa è un'azienda che va avanti da 50 anni, penso che se le cose non andavano bene forse l'avrebbero chiusa prima, mi viene da dire. Pedroni, che dice? È ricco lei? No, io non sono ricco, le dico un'altra cosa, che è sentire ancora la parola padrone, guardi, vado in pelle d'oca. Sa come li chiamano qua le persone come sottoscritto che vengono qua, sì, per cercare di fare azienda? Li chiamano investitori, non li chiamano padroni. Uno che continua a chiamare, uno che ha dato lavoro per 50 anni a famiglia, pagato sempre gli stipendi, non ha mai avuto problemi, sentirsi dire padrone, devono cambiare, non siamo più nel Medioevo. Ma lei è per questo che se n'è andato, perché la chiamano padrone? No. No, no, assolutamente, non me ne frega niente di quello che dice il padrone. Anche appunto perché questo conta fino a un certo punto. No, non mi interessa nulla. Il problema è che con i sindacati è 2 anni che dialogo. Gli ho detto, signori, all'interno dell'azienda ci sono questi problemi. Ho problemi di concorrenza. La concorrenza è sempre più agguerrita. Concorrenza che mi arriva dai paesi dell'est. Ho bisogno che i dipendenti non mi facciano più il 15% di assenteismo. Che mi facciano della qualità all'azienda, all'interno dell'azienda. Quando ho bisogno di straordinari, che me li facciano, che non c'è bisogno di comandare. Il buon sindacato, la buona FIO mi ha sempre detto, caro Pedroni, cosa ci possiamo fare? Sono persone. Quindi alla fine è colpa del sindacato se lei se n'è andato. No, io non sto dicendo che è colpa del sindacato, io ho detto che il sindacato ha le sue colpe. Come ce l'ha comunque il Sistema Italia? Perché tante aziende vanno via? Ma chi ha detto? Perché vanno via? Te lo sto dicendo. Il problema dei sindacati che non ti permettono più di lavorare. Il sistema finanziario in Italia ormai è al collasso, quindi nessuno ti finanzia, nessuno ti dà più fiducia. Anzi, cosa fanno? Ti hanno già messo la corda al collo, cercano di tirartela, perché oggi alcuni, lo sottolineo, comunque banche stanno facendo questa operazione, si stanno facendo morire. Il governo, vediamo, quanti mesi è che si è insediato il governo, si è messo a destra, si sono messi insieme destra, sinistra, tutti quanti sono lì, e questi parlamentari, questi onorevoli hanno il coraggio di dire sottoscritto che sono un delinquente. Ma no, ma nessuno dice questo, Pedroni. Comunque, grazie. And now, the good news! Rosalba Occhi Pinti, una maestra di gela, ha dato vita a un'associazione a tutela del congiuntivo. I soci fondatori sono gli alunni della sua quinta elementare. Per far parte dell'associazione bisogna ascoltare con attenzione chi parla, individuare eventuali errori e correggerli. Io speriamo che me la cavi! Buonasera, ben ritrovati cari ascoltatori, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, si può fare l'attualità anche d'estate, aspettiamo i vostri interventi, poi ci sono le buone notizie, la bella storia con cui ci lasciamo, se volete interagire in diretta siamo su Twitter, il mio account è @ Ale Maurizi, quello del programma è chiocciola si può fare 24. Ci sono delle dichiarazioni fresche fresche di Enrico Letta. La grazia a Berlusconi non è in mio potere, ha detto credo alla TV austriaca. Sì, alla TV austriaca. Poi ha detto: mi fido del fatto che il partito di Berlusconi assumerà le sue decisioni e si assumerà la responsabilità delle sue decisioni, a proposito della continuazione del governo. E poi cosa farà il PD? Deciderà, ha detto Letta, in commissione. Le decisioni che assumerà, per quanto mi riguarda, saranno le decisioni giuste, che non si sa esattamente cosa voglia dire, ma questo è quanto. Allora andiamo con i titoli del TG3. L'ultimo tentativo di Berlusconi per evitare la decadenza, il ricorso alla Corte Costituzionale sulla legge Severino, ma nel PDL scontro tra falchi e colombe. Epifani incontra Letta, forte sintonia sul partito e sul governo. La crisi, dice il segretario PD, la pagherebbe chi ha fatto i maggiori sacrifici. Scintille alla Camera tra la Boldrini e i 5 Stelle nella seduta convocata per fissare la discussione sul femminicidio. Soldi sprecati, la replica, immaturi. Nuovo appello all'integrazione del ministro Kyenge. La terra non ci appartiene, è di tutti, e la Lega lancia un referendum anti-Kyenge mentre ci sono ancora sbarchi in Sicilia. Il governo entro agosto si troveranno i 2 miliardi per non far pagare la rata dell'IMU, poi la service tax. Borsa in fibrillazione, risale lo spread. Egitto ha arrestato il capo dei fratelli musulmani, Mohammed Badie, ma loro annunciano: non ci fermeremo, e domani il tribunale deciderà su Mubarak. E l'umanità ha consumato in 8 mesi le risorse naturali che la Terra ricostituisce in un anno, dunque da oggi il pianeta va in rosso e la tendenza allo sviluppo insostenibile peggiora. In Parlamento sono più di 600 noti avvocati, imprenditori stempiati, porno dive che lavorano per te. Guarda da grande, farò il parlamentare, o quantomeno il portaborse, o chissà il faccendiere, il senatore, il prefetto, con papà. Quanto mi piace. La giornata di oggi, chiudo, presidente, mediamente potrebbe costare, a conti fatti spanometrici, 150-200 mila euro tra trasporti, tra servizi offerti dalla Camera dei Deputati, eccetera. Probabilmente noi saremmo stati più d'accordo nel dare questi soldi, ad esempio, ai centri antiviolenza. Grazie. Ma lei ha capito che è un obbligo essere qui? È la Costituzione che ce lo chiede entro 5 giorni. Cosa parla di sprechi? Questo è un esercizio democratico. Lato del ministro, dico sì. Quanto mi piace sedermi a mangiare, costruire, invecchiare, demolire e rifare. Di quali temi volevamo parlare, colleghi? Cioè, era solamente una comunicazione, dovevamo parlare di quale tema dovevamo parlare? Grazie. Veramente mi spiace che il livello sia questo, mi spiace veramente. È un atto dovuto, costituzionalmente dovuto, dovevamo farlo. Se non l'avessimo fatto non avremmo rispettato la Costituzione. Mi spiace veramente che si ricorra a questi espedienti, non è segno di maturità. La Boldrini ha dato degli immaturi agli esponenti del Movimento 5 Stelle, Rizzetto e Artini, che avete sentito nell'ordine, che insomma l'hanno accusata di aver fatto spendere alla Camera 150 mila euro per nulla, di aver fatto una passeggiata estiva dentro la Camera per farsi un po' di pubblicità. Grillo l'aveva detto chiaramente: la Boldrini prende la Camera come una TV commerciale da usare a piacimento. Lei però ha detto: avete capito che è un atto dovuto? È stata abbastanza netta, anche se non ha reagito con grande forza, con grande veemenza. Più tardi sentiremo un altro esponente, fra l'altro il vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle, Di Maio, e cercheremo di appianare, di capire se era sì o no un atto dovuto, magari si poteva fare in maniera diversa, oppure no. 800 24 00 24. Gli attacchi arrivano anche dalla Lega. Buon anno. Deve andare al mare? Dove deve andare? Questo le sto chiedendo, cara donna Prassede, perché poi lei, visto che mi scrive continuamente, signor... Colleghi, lo sappiamo, non sa esprimersi senza offendere, non sa esprimersi senza offendere, continui. Non è un'offesa, caro Presidente, si legge Promessi Sposi, non è un'offesa, donna Prassede è un personaggio dei Promessi Sposi. Porno dive che lavorano per te. non ha voluto neanche finire la carta del presidente precedente, perché si fa chiamare e stampare la presidente. Se finiva magari prima la carta del il presidente, faceva una buona azione, non è che cambiava niente, ma è un segno di come lei interpreta. Deve il suo concludere, ruolo, è terminato il suo tempo. Deve concludere, deve concludere. Concluda, Osiris, concluda. Si dia una calmata e faccia veramente il presidente, perché lei è il peggiore. Concluda. È il presidente della Camera peggiore. È scaduto il suo tempo. Col garantismo raggiungiamo l'orgasmo, con il palo bipolare dentro al PIL. Quando al lato del ministro dico sì, quanto mi piace. Abbiamo deciso di sacrificare il punto di vista strambo per risentire il titolare della Firem di Formigine, siamo in provincia di Modena, Fabrizio Pedroni, che era stato con noi. Avevamo dovuto chiudere l'intervista perché c'era il giornale radio. Pedroni, buonasera. Sì, buonasera. Perché insomma, di cose da dire ce ne sono. L'avevamo chiuso, lei sta facendo un'invettiva, diciamo, contro qualche ascoltatore all'SMS, al 349-238-6666, dava ragione su questo, che è colpa dei politici. Però non è un po' troppo facile dire che anche per un'azienda che andava bene, che avete traslocato in Polonia per via della concorrenza, così all'improvviso ad agosto, è colpa dei politici anche qua? Sto dicendo che è colpa dei politici, è colpa di un insieme di cose, già detto prima, il sindacato in prima linea, la politica, non i politici, la politica in generale. Ripeto, i politici mi stanno dicendo che sono un delinquente. Io ho pagato. Ma chi le ha detto che lei è un delinquente, però, scusi? È stato un deputato, un onorevole del PD, adesso il nome mi sfugge, ma comunque è scritto su tutti i giornali, lo potete leggere in internet e riportate, ma ha detto proprio che sono un delinquente. La prefettura di Modena ha aperto un'inchiesta. La prefettura di Modena ha aperto un'inchiesta. Il sindacato. Però scusi, non è usuale che un'azienda come lei l'ha ammesso, insomma, siete andati via per evitare il picchettaggio dei sindacati, comunque un confronto, un'avvertenza sindacale per questa delocalizzazione. Non è usuale, però, perché altre imprese hanno aperto vertenze, magari durate anni, ci sono state faticose trattative, però non è normale fare quello che avete fatto voi, Pedroni. No, ma non è così, cioè non è che si possa. Se ci fosse stata la possibilità di un dialogo, Pedroni, Fabrizio sarebbe stato il primo a farlo, ma col sindacato dialogo non c'è. Ma ci avete provato? Perché per esempio. Ma ci abbiamo provato, sì. Ma per esempio, provato, ci sono. Sappiamo che ci sono in questo periodo di crisi pochi, a dire la verità, diciamo momenti dove illuminati, dove l'azienda e il sindacato trovano un'intesa per lavorare qualche ora di meno, di più, fare degli straordinari, guadagnare qualche cosa di meno, venirsi incontro, perché un'azienda, tra l'altro come la sua, di 40 dipendenti, non è una grande azienda, non è la Fiat, e quindi un accordo si può cercare quantomeno. Voi l'avete cercato un accordo per salvare l'impianto italiano della Firem o non l'avete neanche cercato? Noi, glielo ho detto prima, noi in due anni, sono due anni che cerchiamo di parlare con la Firem, gli abbiamo spiegato quali erano i problemi che aveva la Firem, quali erano i problemi dell'azienda. Loro assolutamente non hanno fatto altro che allargare le braccia e dire purtroppo noi non possiamo far nulla. Ma allora io ho dei dipendenti, ho licenziato un dipendente per giusta causa, per furto, rischio di vedermelo assumere, e non l'ho detto io che ha rubato, non me ne sono accorto io. Chi l'ha detto? Noto? Ah, scusi, pensavo fosse. Non me ne sono accorto io, quindi è stato trovato. Io rischio di ritrovarlo. Cioè, c'è un dipendente della sua azienda che è stato condannato per furto? Non è stato condannato per furto. L'hanno trovato che ha portato del materiale che era neanche di proprietà della Firem all'esterno, l'ha tentato di vendere in un negozio. Io sono lì che ho un processo. Lei l'ha denunciato, è stato denunciato per questo. Io non l'ho denunciato per furto perché sono andato oltre questo. Però ci sono chi è venuto a testimoniare, chi ha trovato. Beh, è andato materiale. Oltre, però l'ha licenziato. L'ho licenziato, certo. Certo che era il mio braccio destro, certo che l'ho licenziato. Era il suo braccio destro questo qua? Era il mio braccio destro, era il mio braccio destro. Quindi in Italia questa è la situazione. Con i sindacati gli ho chiesto. No, mi scusi, se era scelto. Ora mi scusi, se può sembrare una battuta, se era scelto un braccio destro un po' infelice. Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì, capita nella vita sbagliare. Quindi, ma era un dirigente o era un semplice operaio? Era un dirigente o era impiegato. Comunque andiamo oltre a questo. Io ho detto con la FIOM due anni che ne parlo, loro hanno allargato le braccia. Prima il signor Pizzolla in quell'intervista ha confermato che la Firem per far fare gli straordinari ha dovuto comandarli. Questa collaborazione cosa vado a chiedere? Con chi parlo? con delle persone che mi dicono mi sono arricchito, ma che cosa mi sono arricchito? Ma che cosa ne sa Pizzolla? Lei non cosa si è arricchito in questi anni? No, io non mi sono arricchito, la io sua tutto famiglia, fino sì. all'ultimo centesimo l'ho sempre messo all'interno dell'azienda. Ultimamente da quanto tempo, mi scusi, da quanto tempo Pedroni lei non fa più profitti con l'azienda 2008, ha dovuto? 2008. Cioè lei da 5 anni non fa più profitti con questa azienda? Non faccio più profitti, io non riesco più a fare profitti in Italia, faccio profitti che fanno scappare da ridere, però comunque mi vengono a tassare ugualmente, le tasse le devo pagare. Cosa vuol dire da scappare da ridere? Che non valgono l'impresa? Tipo? Ma non vale la pena, ma sa cosa vuol dire? Ma lei lavorerebbe 10, 12, 15 ore al giorno per nulla? Non lo farebbe nessuno, non lo farebbe nessuno. E perché lo devo continuare a fare? Mi scusi bene, perché? Quando lì dentro ci sono 3 generazioni, prima di sentirmi dire la terza generazione è quella che distrugge tutto, io ho dovuto fare delle scelte. E ripeto, al sindacato, sono 2 anni che parlo con il sindacato, e il sindacato mi apriva solo le braccia, non ci possiamo fare niente, non ci possiamo fare niente. Comanda gli straordinari, ho bisogno di fare delle ore, assumi delle persone, ma cosa assumo che non so quanto risparmierà con il trasferimento della produzione in Polonia? Risparmierò abbastanza da poter guadagnare e investire all'interno dell'azienda, ma non risparmierò sul costo dei lavoratori, attenzione, non è il costo del lavoro qui è più basso, assolutamente vero, ma è tutto il resto. Un dipendente in Italia 12.000 euro all'anno porta a casa, per l'azienda gliene costa quasi 30.000, è questo che è sbagliato. Quindi lei è d'accordo sul fatto che una priorità economica, avendo una fiche da spendere, il governo dovrebbe spenderla per mantenere l'occupazione in Italia diminuendo le tasse sul lavoro? Ma non solo, le tasse sul lavoro, il famoso cuneo fiscale. È la prima cosa da fare, abbattere le tasse sul lavoro, è la prima cosa da fare nell'interesse dei lavoratori. Quindi l'ICI, per esempio, l'IMU, per esempio, a lei non interessa, si può pagare l'IMU? A me l'IMU non me ne frega niente, a me l'IMU è la cosa che fa scappare da ridere, parlano solo di IMU, è ridicolo. Io sono d'accordo con lei, Pedroni, sì, su questo sono perfettamente d'accordo. E cosa ci lamentiamo, dei 100 euro, 200 euro che uno paga su un appartamento? Ma lasciano in tasca i soldi alle persone e vedrai come l'economia riparte. Va bene, Pedroni, grazie okay. per questo supplemento di intervista. Grazie per essere stato con noi. Abbiamo approfondito un po' il punto di vista. Era necessario, insomma, farlo parlare, perché dovevano venire fuori un po' di cose. Poi ognuno si fa naturalmente l'idea che crede. 800 24 00 24. Per esempio Gabardini, non so se si è fatto qualche idea oppure se... Pronto? Io mi sono pronto. Eccolo qua. Ma la cosa che mi incuriosiva, ci stavo pensando, mi incuriosiva, cioè lui ha mandato una lettera ai suoi dipendenti dicendogli: gli amministrativi da domani non si lavora più nel solito posto, ma dovete andare a Modena. Gli altri non ho capito se li ha licenziati tutti o se gli ha detto andate in Polonia a lavorare. No, credo che sinceramente non lo so se gli ha mandato una comunicazione oppure no. No, perché quello che voglio dire è che gli ha offerto, da qualche parte l'ho letto, non gliel'abbiamo chiesto noi, ma gli aveva offerto la possibilità, naturalmente nessuno ha accettato, perché insomma andare a lavorare in Polonia. Sì, ma soprattutto voglio dire, qua c'è un problema di modalità, nel senso che sono giustissimi tutti i problemi di sindacato, di cuneo fiscale, quello che vogliamo, ma non è che uno può mandare una lettera e dire da domani non lavori più qui, devi lavorare in un'altra città, tutti gli altri a casa, io scusate, nottetempo sono andato in Polonia. Perché il problema mi sembra questo, cioè comunque se ci sono dei lavoratori che, come dice lui, da generazioni lavorano in questo posto e hanno fatto guadagnare questa famiglia, tu non è che poi da un giorno all'altro dire adesso grazie mille, io non ho più bisogno di voi. Questa è un po' una follia. Ci sono delle tutele in questo paese, sì, alcune ci sono ancora, spiace molto dirglielo al signore. No, ma infatti la procura di Modena ha pure aperto un'inchiesta, perché le modalità di questa cosa sono sicuramente strane, insomma, in altri casi non è andata così, ci sono state delle trattative magari lunghe, delle vertenze. And now the good news. Nel Varesotto c'è un comune che riesce a pagare i fornitori entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, almeno per le spese più contenute che non rientrano nel patto di stabilità. Si tratta del comune di Comerio, vicino al lago, si va controcorrente. Oh, intanto su Twitter ci chiede l'utente ZZ1User che se possiamo svelare il titolo del brano musicale di questa sera. Non lo so, l'ho letto male, ragazzi, perché ridete? Non so chi sia questo utente musicale, questo utente qua, che chiede informazioni sul brano. Gliele possiamo dare? lo sapete, sì, allora poi gliele diamo. Poi ci sono molti commenti, sia su Twitter che ai messaggi, a Pedroni, Allora, dica all'imprenditore che sta giocando sulla pelle delle persone, glielo dica, industriali seri ne esistono, lui non ne fa parte. Poi, invece, vabbè, chi lo sostiene, basta con questi sindacalisti corrotti che poi diventano onorevoli, scappare dall'Italia, ha fatto bene, benissimo ha fatto questo imprenditore, andarsene, eccetera, eccetera. Però ci sono anche molti che lo criticano. Quando pensa di dire alle famiglie quello che ha fatto? Ci scrivono al 349-238-6666 e va bene, 800-24-0024. Gabardini, sei ancora lì con noi? Sì. Sì, sono qui. Ci senti forte e chiaro? Infatti, la questione è il modo in cui uno va via, non è il fatto se uno ha diritto o non ha diritto ad andarsene, è chiaro questo, no? Mm-hmm. È il modo, sicuramente abbiamo detto è stato... È il modo, perché è quello, nel senso che almeno devi dare del preavviso e uno si trova un altro lavoro. Perché in più dire questa roba qua, io guadagno niente, poi ha detto pochissimo, poi ha detto una roba che gli viene da ridere. A lui gli verrà da ridere, però ci sono le altre 38 persone che lavoravano con 38 famiglie che invece non gli viene neanche più tanto da ridere, che comunque portavano a casa uno stipendio. Sentiamo un po' gli ascoltatori. Michelangelo da Padova, buonasera. Buonasera a lei. Prego. Aspettavo con ansia. Eccolo. Allora, io ovviamente, come anticipavo alla sua collaboratrice in redazione, esprimo non solo piena solidarietà a Pedroni, e quello dico da imprenditore, ma sono convinto che il modo che tanto viene criticato, che tanto si sta discutendo e di cui si sta parlando come se fosse una cosa eclatante, sia semplicemente una conseguenza vergognosa del ruolo dei sindacati in Italia. L'imprenditoria italiana è ostaggio dei sindacati. Guardi, per farle un esempio concreto e brevissimo, le racconto un'esperienza che non è una mia esperienza personale, ma di un mio socio, un grosso industriale del Veneziano, il quale aveva un'azienda a distanza di 10 chilometri da quella principale che produceva materie prime, diciamo, che si occupava dello smistamento delle materie prime, con 20 dipendenti. L'azienda, ovviamente in crisi, propone ai sindacati, con numerosi tavoli d'incontro infiniti, di spostare quelle 10 persone, 10-12, non ricordo con precisione, a 10 chilometri di distanza, perché nell'azienda, nella casa madre, c'era forte necessità di forza lavoro. Bene, non c'è stata possibilità, sia per l'ostruzionismo fatto dai sindacati, sia per la pochissima Vabbè, Michelangelo, però adesso lei ci riferisce una storia così non sappiamo niente, come dobbiamo prenderla? Certo. No, sì. Giustamente prendetela come volete, però io voglio dire solo una cosa, che è facile criticare, ormai si è creato uno stereotipo, no? Imprenditore uguale evasore, farabutto, che cerca di approfittare del lavoratore. Ma chi l'ha creato questo stereotipo? Tutti. E questo è il luogo comune. Ma dove? Ma però la non mi sembra tanto vero, mi sembra uno stereotipo degli anni 70 questo, scusi. Però è uno stereotipo degli anni 70 che io mi limito a riportare, non è uno stereotipo che dico io. Io faccio impresa. Cioè, se lei si riferisce lei si riferisce alle dichiarazioni del sindacalista della FIOM, Pizzolla, quello è il suo punto di vista, non è che è lo stereotipo degli italiani. Ma infatti, attenzione, sì. Io non voglio entrare nel merito e rispetto il punto di vista di Pizzolla, anche se personalmente non posso condividerlo, ok? Allora, tornando per un secondo solo a Pedroni, no? Che spero che sia in ascolto, sì. Le modalità con cui Pedroni ha agito, Pedroni ha detto una cosa sacrosanta poco fa, e non so se è stata volutamente trascurata o vi è sfuggita, lui è all'azienda picchettata, hanno sequestrato un tir che non è di sua proprietà. No, guardi, Michelangelo, non è che l'azienda picchettata, lui ha detto se io avessi detto ai sindacati quello che volevo fare, mi avrebbero picchettato l'azienda. Adesso che i sindacati hanno scoperto quello che lui ha voluto fare e ha fatto, sono andati nell'azienda, hanno cercato di fermare un camion, hanno sequestrato un camion con alcune scrivanie, cose di questo genere. Mi perdono, però il picchetto è con stato... Io voglio capire soltanto una cosa. È chiaro, con quale scopo? Non vogliono che vada via l'azienda, Michelangelo, ma questo non è che aveva l'azienda picchettata, Pedroni. Tra l'altro, scusi, Michelangelo, lei trascura una cosa. Pedroni alla fine ha detto una cosa importante. Il dipendente che prende 12.000 euro ne costa 30 all'imprenditore, e questo è il famoso cuneo fiscale, le tasse sul lavoro che vanno abbassate. Questo non è colpa del sindacato, ma è colpa del Parlamento, che questa cosa non la cambia, e del governo, dei governi che si sono succeduti. Quindi diamo a ognuno il suo ruolo, no? Quindi, sì. Io la cosa sulla quale volevo far riflettere con questo intervento, e ripeto, io Sono un imprenditore, ma non per questo do la solidarietà a Pedroni. Io do la solidarietà a Pedroni semplicemente perché sto vivendo la situazione di Pedroni. Pedroni ha detto un'altra cosa. Quindi perché è un imprenditore? Lei dice una cosa, poi dice il contrario. Vabbè. No, lei è un imprenditore, dà la solidarietà a Pedroni, va benissimo. Non è che si deve nascondere perché è un imprenditore. Non c'è nessuna luogo comune. Non è un problema. Non è un problema neanche arricchirsi. Prima Pedroni diceva io non mi sono arricchito. Non è mica un reato arricchirsi. Ma signori, ma c'è una piccola differenza. Voi avete sottolineato diverse volte che l'azienda andava bene. Ma chi stabilisce che l'azienda andava bene? Pedroni ha detto una cosa sacrosanta: se io lavoro a margine zero, la mia azienda non va bene. Guardi, va bene, lei ha ragione. Allora, le facciamo sentire. Ieri sera abbiamo ricevuto la telefonata di un consulente che ci ha detto questo. Sentiamo, che si è presentato come consulente della Firem. Okay. Io questo riferivo perché non ho elementi, no? Ho visto i bilanci della Firem. Sentiamo, ce l'abbiamo? Eccolo qua. Il portafoglio ordini era un portafoglio pieno, si faceva fatica a stargli dietro. Quindi sicuramente le motivazioni non vanno cercate né in aspetti di costi o di produttività né tantomeno in aspetti di carenza di ordini. No? Eccolo qua, sentito? Ho capito. Però non è che lo possiamo prendere neanche questo per oro colato. Detto ma que- non solo, una piccola riflessione. Quando un'azienda non aumenta la propria capacità produttiva, e da quello che dice il consulente gli ordini erano in aumento costante, non ce la si faceva stargli dietro, vuol dire che ancora di più è avvalorata la tesi di Pedroni che si lavora con pochissimo margine, perché pur di creare lavoro si prendono anche ordini che non generano profitto per l'imprenditore. Sì, questo è possibile. Va bene, grazie Michelangelo, grazie. Posso aggiungere una questione? Sì, vai Gabardini. La cosa che vorrei dire è che questa azienda che andava tanto bene, forse andava tanto bene anche grazie a questi 40 lavoratori che lavoravano dentro. Quindi nel momento in cui non va bene di salvarti solo te, mi sembra un pochino ingiusto in questo senso. E poi un'altra cosa che vorrei dire a Michelangelo è che in realtà io sono d'accordissimo che i sindacati fanno anche un sacco di porcate, un sacco di cose sbagliate, assolutamente, ma credo che solidarizzare con chi si comporta peggio dei sindacati non risolva la soluzione, il problema, cioè non sia una soluzione. Vabbè, come va? Tu sei iscritto al sindacato attori, no? No, assolutamente no. Vabbè, poi immagino che siano mondi anche non paragonabili, insomma, è tutto diverso. Però la crisi c'è anche nel cinema. Non simpatizzo molto con i sindacati. Va bene, allora, questa era la risposta di Gabardini a Michelangelo. Adesso andiamo da un'altra parte, se no ci fermiamo qua. Marco da Roma, buonasera. Buonasera. Volevo solo dire poche cose. Riguardo all'immigrazione, al volume dell'immigrazione che c'è attualmente, vabbè, l'Europa a quanto so non vuole tirar fuori una lira per contribuire al mantenimento di questi rifugiati. Sarebbe opportuno dare il permesso di soggiorno a tutti, soprattutto ai rifugiati, in modo che siano liberi di andare in Europa dove vogliono, perché o ci finanziano in qualche maniera o altrimenti se ne devono far carico. Ma che c'entra però il permesso di soggiorno? Cioè lei dice diamo il permesso di soggiorno e poi però chi ci garantisce che vadano in altri paesi europei? Esatto, che possono andare in Germania. Ma chi ce lo garantisce questo? Cioè una volta che diamo il permesso di soggiorno possono stare in Italia. Poi è vero che transitano verso l'Europa, però non c'è automatismo, Marco. Non c'è automatismo, però quando vedono che qui in Italia lavoro non ce n'è, mentre invece magari in Germania c'è, normalmente si muoveranno e andranno in Germania, in Francia, in Austria, non credo che gli convenga fermarsi qui senza lavoro. Cioè sta dicendo sfruttiamo almeno il fatto che da noi siamo un paese che è messo malissimo dal punto di vista del lavoro, che tanto non si fermerà nessuno, questo? Esatto, anche perché non riceviamo niente dall'Europa per questo. Oltre dobbiamo sostenere pure i costi di pattugliamento del confine meridionale europeo e così via, sono tutti a carico nostro, non è che riceviamo contributi o altre cose, per cui sarebbe opportuno fare così in modo che questa gente si ridistribuisce nell'ambito dell'Europa, a quel punto diventa anche accettabile. Grazie Marco, grazie, buona serata. Adesso Gabardini, se ce la fai puoi restare con noi, adesso abbiamo la regola di ingaggio con l'ospite, certo, che non ti consente, diciamo, di interloquire. Stagista, opinionista. Perché sono qua e sento molto male, quindi ogni tanto magari alzo la voce e chiedo scusa. Sì, ma noi ti sentiamo bene, quindi non urlare troppo, perché sennò poi ci abbiamo il rientro, come si dice. Resta con noi, poi dopo andiamo avanti anche con gli ascoltatori. Intanto salutiamolo, Luigi Di Maio, onorevole del Movimento 5 Stelle. Buonasera Di Maio. Buonasera, ci tenevo a precisare che sì, non ho pattuito nessuna regola d'ingaggio, quindi quale si riferisce? No, ma la regola d'ingaggio non era con lei Di Maio, ha capito male, era con Carlo Gabardini, che è il nostro autore, sì, attore comico, che sì, fa l'attore, sta a Varese, adesso è fuori studio, e lui normalmente però non può interloquire con gli ascoltatori, perché è stagista, opinionista, ma non fa le domande, questo era il discorso. Va bene, no, si figuri. No, perché lei si pensava subito che ci fosse... No, stessi denunciando un accordo tra noi e lei, ma le pare che uno poi lo dice così ad alta voce. Vicepresidente della Camera, tra l'altro. Oggi abbiamo assistito a questa situazione surreale. La Boldrini che diceva è un atto dovuto, siete degli immaturi, e voi che urlavate... No, urlavate no, ma che chiedevate... No, era buon anno quello che urlava, quello della Lega. Voi che dicevate... No, è stato come dire, un bluff, una convocazione inutile della Camera, si sono spesi dei soldi inutilmente. No, secondo me è passato anche un messaggio sbagliato in entrambe le parti. Noi sono 2 o 3 giorni che ci teniamo a precisare una semplice cosa, che questo Parlamento è in vacanza formalmente fino al 6 settembre, quando l'Aula ricomincerà a lavorare. Nel frattempo ci sono dei meri adempimenti che si devono fare per, come ha detto la Presidente, obblighi costituzionali. Quello che a noi in questi giorni non è piaciuto è che si spacciasse questo adempimento come un rinizio dei lavori dell'Aula. Ci abbiamo tenuto a precisare sia stamattina che in questi giorni che è sbagliato, che la Presidente avrebbe dovuto smentire, dire che 2 minuti di seduta, perché stamattina la lettura del provvedimento è durata 2 minuti di seduta possono essere spacciati per lavori dell'Aula, come per dire i parlamentari che sentono il peso della loro responsabilità tornano in Aula. Questo però, su questo secondo me ognuno poi si fa la sua opinione, no Di Maio? Noi ci abbiamo tenuto a precisare questa cosa perché semplicemente però, era un mero adempimento. Però, nella giornata di oggi, mi pare che siamo andati oltre questa cosa. Nella fattispecie poi abbiamo iniziato a cercare di capire perché queste notizie non erano state smentite e perché poi si è dato adito ad una vera e propria passerella che poi per i rimborsi spese di viaggio dei deputati comunque è stata una passerella costosa. La stessa seduta si è fatta l'8 agosto dell'anno scorso con il vicepresidente di turno che leggeva il testo ed è finita lì. Quella senza parlamentari, senza onorevoli. C'era qualcuno, avete responsabilità, ma il punto è che poi oggi è venuto Epifani, si è fatto la sua passerella di 5 minuti, ha fatto le dichiarazioni, è andato via, è venuto quell'altro, ha fatto le dichiarazioni. Noi ci siamo presentati quelli che potevano in zona, potevamo anche noi andare lì. Però mi scusi Di Maio, ma il Parlamento è sempre questo, cioè ogni volta che andate in Parlamento ci sono i giornalisti che vi fanno le domande, non è che questo... Non volevo dire che i giornalisti non dovevano esserci, io sto dicendo... No, ma neanche che Epifani non potesse fare qualche... Che male c'è se Epifani andando alla Camera ha fatto una dichiarazione? Io anche politicamente le sto facendo un'analisi politica della giornata. L'analisi politica della giornata, secondo noi, a nostro modesto avviso, è stata una passerella, perché... Questo Parlamento. No, ho capito, però questo diciamo, io l'ho detto così: ognuno si farà la sua opinione sul fatto se questa convocazione era una passerella oppure no. Però quello che vorrei sapere invece è se, come ha detto la Boldrini, era un atto dovuto questa convocazione in qualche forma oppure se ne poteva anche fare a meno. Perché questo è quello che voi avete detto. Avete detto che si potevano devolvere i soldi per le associazioni delle vittime della violenza. Quello che è stato detto oggi in aula è stato semplicemente dire questo atto dovuto, che è un mero adempimento, come ho detto, si è trasformato in un vero e proprio caso mediatico. Ma di chi è la colpa? Della Boldrini o di chi è andato alla... Noi ci saremmo aspettati che la Presidente potesse in qualche modo, con un comunicato stampa, come solerte quando smentisce noi, chiarire che non era un richiamo a ritornare dalle vacanze dei parlamentari. La Boldrini richiama, interrompe le vacanze dei parlamentari e li richiama in aula. A tal punto su questo punto noi abbiamo anche precisato un'altra cosa, abbiamo detto se questo Parlamento vuole veramente lavorare, domani mattina convochiamo la capigruppo e ricominciamo a lavorare da domani, non aspettiamo altri 16 giorni di vacanza. Quello che noi ci siamo sentiti di fare è di denunciare la cattiva informazione che è trapelata da silenzi della Presidenza in questi giorni. Tutto qui. Poi ovviamente questo ha scatenato il fatto che si mettesse in moto la macchina della Camera con tutti i costi accessori. Però questo mi sembra di capire che questo era inevitabile, cioè questa, la Boldrini magari da sola, come hanno fatto l'anno scorso, non so chi per quale altra legge, doveva farlo questo atto o no? L'ho detto tutta la settimana che era un adempimento che bisognava fare. E allora non ho capito come si facevano a risparmiare 150.000 euro, anche nel caso si fosse voluto. Il costo è molto semplice. Semplicemente si sarebbe dovuto fare una seduta di 2 minuti nella quale si dava questa lettura alla Presidente Boldrini. Ma chi doveva renderla in questo modo? Lei avrebbe dovuto dire non venite ai parlamentari? No, assolutamente, avrebbe soltanto dovuto precisare che era un atto dovuto. Invece, ovviamente, quello che è successo... È stato detto che era una convocazione e quindi, diciamo, ha spinto di più i parlamentari a venire. Lei ha prestato il fianco ai titoli che dicevano la Boldrini richiama dalle vacanze tutti i parlamentari e li riporta. Ma questo però sono i giornalisti che hanno scritto male, allora. Faccio mea culpa. Conosciamo la solerzia della Presidenza della Camera nello smentire tutte le notizie che la riguardano, non smentendola. Quindi avrebbe dovuto smentire i giornali che dicevano che era stata convocata la Camera, però è un po' perverso questo ragionamento. No, Di Maio. A parte che la Camera non era stata neanche convocata ancora quando sì. la notizia vabbè, era uscito un messaggio su Facebook, questo era un po' strano tra l'altro. No, il messaggio su Facebook è uscito dicendo che probabilmente ci sarebbe stato intorno a queste date. Poi dopo è arrivata la conferma. Poi dopo giorni è arrivata la notizia ufficiale, questo è il punto. Il problema principale è che noi siamo molto perplessi da come si utilizza ultimamente la Camera. Questa è una Camera che non ha approvato nessuna legge di iniziativa parlamentare in 6 mesi e poi si cominciano ad usare le sedute nel 20 agosto come per dire guardate che staccano visti i parlamentari. Ecco, ma anche noi questa cosa che... questa preoccupazione che è legittima, no? su come sta andando il lavoro del Parlamento. Anche qui, da chi dipende? Dipende da chi organizza i lavori della Camera che dà priorità ai decreti, alle cose del governo, oppure dipende dal fatto che la maggioranza che sostiene il governo... È sempre una questione di volontà politica delle forze politiche in Parlamento. Quindi non è colpa della Boldrini questo? Ma noi su questo non ci saremmo semplicemente aspettati quando la Boldrini diede gli auguri di buone vacanze. No, ma non per difendere la Boldrini, per capire. Io non la sto accusando, io semplicemente sto valutando il suo operato e muovendo delle accezioni, altre volte le faccio dei complimenti. Io personalmente dico semplicemente che questa cosa delle leggi di iniziativa parlamentare si potrebbe risolvere con dei moniti anche delle cariche istituzionali. Quando invece abbiamo chiuso i lavori dell'Aula alla fine della settimana scorsa, il 6-7, 2 settimane fa, quando abbiamo chiuso i lavori dell'Aula ci è stato dato questo messaggio nell'augurare una buona chiusura mi complimento per il lavoro fatto dalle commissioni e dalla Camera. Io con tutto il rispetto mi sento di dire che complimenti se non abbiamo fatto neanche una legge di iniziativa parlamentare e stiamo ratificando i provvedimenti che vengono o dai trattati internazionali o dai decreti legge che vengono sottoposti continuamente alle Camere. Ma è logico che questa è una volontà politica, noi ci battiamo perché le leggi nascano in Parlamento e invece c'è un'altra volontà politica di maggioranza di subire i provvedimenti che vengono dal governo in questo momento. E c'è da dire che negli ultimi 20 anni si è fatto così e i risultati sono sotto gli occhi di tutti in questo paese. Senta Di Maio, lei è onorevole, non sta al Senato, quindi lei non deputato, sì. Sì, non dovrà votare diciamo la questione della decadenza di Berlusconi, che è senatore. No. Come finirà secondo lei? Oggi Tonini del PD ha detto un supplemento di istruttoria, se il PDL lo chiede ci potrebbe essere. Sembra che i tempi potrebbero allungarsi come chiede il PDL. Il PD tenderà la mano per salvare Berlusconi secondo voi? Io le do il mio parere. Sì? Ho visto nei precedenti mesi una politica che era quella per esempio sui rimborsi elettorali, se ricorda, che sembrava che le cose erano già fatte a giudicare dalle dichiarazioni dei personaggi dei partiti. Poi sono 4 mesi che la aspettiamo, è stata dichiarata l'urgenza del provvedimento e poi è stata rimandata continuamente. Lo stesso io ho l'impressione che accadrà qui. Io non sono un esperto della materia del politichese, diciamo così, però quando cominciano poi a, come dire, ammorbidirsi, c'è già la strada, si sta aprendo la strada verso un accordo. Purtroppo questi accordi vanno sempre nella direzione degli interessi di pochi. Per tenere in piedi il governo Letta? Ma se tenere in piedi il governo Letta significa salvare in questo momento un pregiudicato dalla incandidabilità sopraggiunta, che è questa che si troverà a giudicare la giunta competente, beh, noi in questo momento stiamo facendo un atto veramente eversivo, come lo abbiamo definito noi. Non c'è esistenza di governo che giustifichi un'azione del genere, soprattutto se poi a farlo sono quelli che in questi anni hanno sempre finto o fatto sembrare di combatterlo, Berlusconi. Io questo è quello che veramente mi lascia allibito in questo momento. Ma quindi insomma, il PD ovviamente. Sì, no, è chiaro. Quindi insomma, la sua previsione è che questo voto... La mia previsione è che troveranno una ci sarà una dilazione, cioè ci sarà un ritardo di questo voto. Ho come l'impressione, dagli ultimi comunicati che ho letto, dagli ultimi, sembra che comunque si stia cercando una strada per dilazionare i tempi e quindi in qualche modo di fargli prendere tempo. Il punto fondamentale è che invece in questo caso bisognerebbe semplicemente prenderne atto e non mettersi a giocare. Ma quando poi ci sarà questo voto e se stiamo alla dichiarazione di adesso, il PD voterà per la decadenza perché così ha detto, il PDL invece voterà per o uscirà dall'aula, per esempio, non votando comunque la decadenza, il governo Letta potrebbe davvero avere le ore contate, perché mi sembra che entrambi i partiti abbiano subordinato l'appoggio al governo a questa, il PDL ha salvacondotto per Berlusconi, il PD invece ha rispetto della legalità. Lei ha detto dopo Napolitano invece di fare un Letta bis, dovesse cadere Letta, deve dare l'incarico a noi, al Movimento 5 Stelle. Io ho parlato, prima di tutto ci tengo a precisare una cosa, che non credo che questa votazione determini una caduta del governo, magari poi ci risentiremo, vedremo chi in qualche modo avrà avuto ragione, però dobbiamo tenere presente che poi c'è l'altra incandidabilità di Berlusconi, quella che viene per effetto del decreto, cioè quando lui si andrà a ricandidare a nuove elezioni la Corte d'Appello gli respingerà la candidatura, come succede per tutti i comuni mortali che non rispettano la legge che in questo caso hanno votato loro nella precedente legislatura col governo Monti. Detto questo, quindi io credo che lui comunque proverà a prendere tempo tenendo in vita questo governo, ma questa ovviamente è semplicemente previsione del futuro che non so quanto possa valere la mia parola, però detto questo io ho precisato, come abbiamo precisato in molti esponenti del Movimento 5 Stelle, che fallito questa idea di un governo di larghe intese, questo governo che doveva fare chissà che cosa perché metteva insieme i due terzi del Parlamento, fallita questa idea bisogna dare un mandato esplorativo al Movimento 5 Stelle che sia in grado di mettere insieme un'idea di governo su 5 punti che ripassa la palla al Parlamento, cioè dall'opportunità a tutti quei parlamentari che in questo momento sono succubi dei ricatti del governo e in qualche modo anche impotenti, le ho detto qual è il livello di approvazione delle leggi di iniziativa parlamentare, cioè zero, in questo momento dare un'opportunità a tutti i parlamentari, al di là degli schieramenti, dare l'opportunità di approvare 4-5 cose buone, tra cui una nuova legge elettorale, provvedimenti per le piccole e medie imprese, finalmente una legge sul conflitto di interessi, il PD ha avuto il coraggio di fargliela fare al Berlusconi nel 2004, la legge sul conflitto di interessi, non è mai stato in grado di farlo. Io credo che possa rappresentare un'opportunità per ridare centralità al Parlamento con un governo che è il mero esecutore dei provvedimenti legislativi approvati da Camera e Senato. Questa è l'idea fondante che noi abbiamo e crediamo che in questo momento, dopo 6 mesi, i partiti siano in una fase di disgregazione maggiore e i parlamentari non vogliono tornare a casa con un nulla di fatto, ma piuttosto avere un'occasione, al di là dei loro schieramenti, di fare qualcosa di buono. Grazie Di Maio. And now, the good news! A Catania, in un quartiere difficile, i ragazzi dell'associazione Andrea Stimfel hanno trasformato un terreno abbandonato nel loro campetto da calcio. Lo hanno fatto da soli, nonostante l'assenza delle istituzioni. Le reti delle porte sono quelle dei pescatori, ma per i ragazzi del quartiere è meglio del Maracanã. Sulla decadenza di Berlusconi, il PD farà la scelta giusta e sui venti di crisi serve stabilità, dice, non polemiche. Vertice del PDL ad Arcore sul futuro parlamentare dell'ex premier, studiare bene le carte, Epifani con crisi pagherebbero gli italiani. Il sottosegretario all'economia Baretta, rata di giugno dell'IMU sarà cancellata a dicembre, service tax, i cittadini risparmieranno. Egitto, arrestato il leader dei Fratelli Musulmani, promorsi lanciano la disobbedienza civile attesa per la scarcerazione di Mubarak. Ancora sbarchi di migranti sulle coste siciliane, numerosi salvataggi in mare, quasi 1000 persone arrivate nelle ultime 24 ore. Come sono cambiate in 50 anni le località più frequentate dai turisti in Italia? La meta del viaggio del TG1 è Portofino. Il grande attore Giorgio Albertazzi compie oggi 90 anni, li festeggia la Versiliana recitando D'Annunzio, al nostro telegiornale dice sono 90 anni pieni di festa, nella vita ho aggiunto bellezza alla bellezza, vero scopo dell'arte. Allora, riprendiamo con gli interventi degli ascoltatori, ne abbiamo un bel po' in linea, cominciamo con Roberto che ci chiama da Livorno, buonasera Roberto. Buonasera. Io il mio intervento era per fare alcuni chiarimenti, cioè sento parlare molto le radio, le trasmissioni della polemica Boldrini 5 Stelle per il discorso sì. della riunione della Camera, no? Però lei mi sa dire la proporzione di chi era presente in Camera, alla Camera? E c'erano la pochi. La maggior parte erano dei 5 Stelle. C'erano pochissimi del PDL, pochi credo della Lega, qualcuno del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, però erano comunque, credo. Aspetti che ce l'ho qua le cifre. Vediamo un attimo, 4 del PDL, 5 della Lega, 43 del Partito Democratico, una ventina del Movimento 5 Stelle su 100. Soddisfatto? Vabbè. Comunque allora già come forse sono già abbastanza equilibrate, però non è, cioè, secondo me la notizia dovrebbe essere che la maggioranza dei parlamentari disertano l'aula in occasione di questo incontro. Sì, però scusi Roberto, ha capito che non era necessaria la presenza di tutto il Parlamento per questa cosa qua, su questo credo che abbia ragione il 5 Stelle, non era necessario, non si è aperto un dibattito, è stata una cosa formale, quindi molti hanno deciso di non andare. In realtà è quasi che la Boldrini l'ha fatta molto per immagine e tutti quelli che sono andati si sono sentiti in dovere di farla anche loro per immagine, è così? No, non lo so questo. Dico... C'era necessità che loro fossero lì o no? No, non c'era la necessità che loro fossero lì, tant'è vero che è stato fatto anche con 100 parlamentari su quanti sono quelli che avrebbero dovuti essere. E quindi non era necessario. Su questo credo aver capito che ha ragione il Movimento 5 Stelle. Infatti, quindi voglio dire, è semplicemente che tutti hanno, diciamo, pensato che fosse opportuno essere presenti per poi poter dire invece eravamo, che però non era indispensabile. Comunque Roberto ha capito, la notizia non è che c'è che il Parlamento era vuoto, questo è un elemento, diciamo, che ci sta. C'è stato questo forte scontro tra il Presidente della Camera e alcuni esponenti del 5 Stelle. Sì, mi pare che la cronaca ci sia tutta. Un po' di spazio anche all'altra. Va bene, l'abbiamo chiarito. I parlamentari erano assenti. Grazie Roberto, abbiamo chiarito anche questo. Ernesto da Napoli, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, io volevo fare una osservazione su una contraddizione della vita italiana. Noi abbiamo una legge che consente a persone che non abitano in Italia, che non pagano le tasse in Italia, di eleggere dei deputati. No, scusi, non ho capito Ernesto, non ho capito la sua premessa. Noi cos'è che abbiamo in Italia? Una contraddizione. C'è una legge che lei conosce bene. Che è quella del collegio estero, che consente a persone che non abitano in Italia, che non ci sono mai venute, di eleggere i deputati che stanno nel nostro Parlamento. Sì. Ora, come lei dovrebbe, come ricordo io, poi penso che lo sappia anche lei, la democrazia è nata col principio no taxation without representation. Io il diritto, pago le tasse e voglio essere rappresentato. La contraddizione qual è? Che noi abbiamo delle persone che le tasse non le pagano perché vivono in altri paesi e possono rappresentare in Parlamento. Mentre abbiamo milioni di cittadini che stanno in Italia e pagano le tasse perché sono regolarmente iscritti nei ruoli e che non hanno il diritto di essere rappresentati perché appartengono a un'altra nazionalità, che mi sembra una cosa un poco stupida. Vabbè, ma come mai lei fa questo intervento? Così, diciamo, perché questa è una cosa che è sempre vera, cioè poteva essere vera anche un anno fa, e tra l'altro sono d'accordo con lei, per me il voto degli italiani all'estero è un'assurdità. Invece, dopo un po' che un cittadino paga le tasse in Italia, anche se è straniero, il diritto di voto dovrebbe valere. Il diritto di essere rappresentato a casa, infine, il Parlamento. Dopo parecchi anni, quello che volete. Sì, sì, sì. Ma perché le dice questo adesso, Ernesto? Perché c'è stata tutta una discussione qua, gli immigrati, non gli immigrati, la Lega che rompe le scatole continuamente. Il problema è molto semplice. Oltretutto c'è anche un'altra legge che forse viene ignorata, che consente ai cittadini stranieri che hanno un lontano parente in Italia, italiano, di venire in Italia, stare 2 mesi in un posto italiano e con questa residenza di 2 mesi acquisisce il diritto al cittadino, alla cittadinanza e al passaporto. Questa legge, tra l'altro, è alla base di un'attività speculativa di certi gruppi studi legali che si preoccupano di queste cose, perché ogni pratica di questo genere costa tra i 10 e i 15 mila euro all'interessato. Mi sembra una cosa normale. Grazie Ernesto. Che ne so, adesso sentiamo gli ascoltatori anche se hanno qualcosa da dire su questo. Oppure Gabardini ha qualcosa da dire su questo? No, assolutamente no. Sto facendo una cosa molto poco radiofonica perché mi sto cambiando per andare sul set e lo sto facendo con una lentezza incredibile per non dar fastidio ai nostri microfoni. Grazie, vai, questo è un gesto che noi apprezziamo moltissimo. Infatti non avevamo sentito nulla, quindi adesso andrei a girare qualche scena, perché sui set dei film si sta molte ore in attesa, no? Sostanzialmente. Tantissimo, anzi, diciamo come diceva Mastroianni. Sì. L'arte dell'attore è quello di trovare una seggiola libera sul set, cioè, perché in realtà si tratta di stare seduti il più possibile per poi nell'unico momento che conta, cioè quei 5 secondi, diciamo, essere i più freschi di tutti. Siete dei privilegiati da questo punto di vista, pazzeschi. Totalmente. State lì seduti tutto il tempo, poi in 3 secondi girano una scena e è fatta, vabbè. Totalmente privilegiati. Augusto da Genova, buonasera. Buonasera, è un piacere sentirla. Volevo solo fare 2 puntualizzazioni sul Movimento 5 Stelle, sì, che quasi sempre vengono chiamati dagli organi di informazione a giustificarsi determinati loro atteggiamenti. Però voi come organi di informazione, io parlo voi in generale, e non sottolineate il fatto che loro sono gli unici che hanno concretizzato quello che avevano promesso, hanno restituito una serie di importi sia alla Regione Sicilia, sia al nostro disastrato governo, Stato, meglio, i milioni di contributi elettorali li hanno rifiutati. Augusto, questo quando è stato fatto l'abbiamo detto, poi adesso ci sono altre cose, altre vicende e andiamo avanti. Però, grazie Augusto, grazie, buona serata. Il movimento viene sempre, come dire, messo sotto accusa. Ma guardi, non da me, io abbiamo fatto un'intervista di un quarto d'ora con Di Maio del 5 Stelle, però non è che possiamo parlare sempre del fatto che hanno restituito quello che hanno restituito. Quando è stata fatta questa cosa ne abbiamo parlato, quindi Augusto, poi facciamo anche un passo avanti ogni tanto. Grazie. Pietro da Bologna, buonasera. Buonasera, io intervenivo per la questione della FIREM, ok? Sì. Io sono un delegato della FIOM, quindi sono il classico della sindacalista FIOM di Sire, della FIOM CGL di Bologna, cioè una grossa azienda di 370 dipendenti. Faccio gli accordi, è un negozio multinazionale e sento un po' il ritorno, non so se... Noi la sentiamo bene, Pietro. Perfetto, vada pure. No, sì. Perché sento la sento bene pure io. Ma dicevo appunto che c'è una situazione che io sono... per chiamare questo signore della firma padrone, una persona di malaffare, che in qualche maniera toglie un futuro alle famiglie, che hanno, io ne sono nella concezione che sono i lavoratori a creare la ricchezza, non chi ci mette inizialmente il capitale, e il diritto della proprietà privata non è qualcosa che può andare sopra al diritto della livello sociale, collettivo, eccetera, eccetera. Ma scusi, livello sociale, Pietro, però se... della FIAT, sì, ho capito, Pietro, scusi, però un attimo. Aziende, lei ha detto che questo senso, Pietro, per dare occupazione, sì, dovrebbero essere, Pietro, espropriate e nazionalizzate. Quei padroni lì, ma Pietro, loro dovrebbero andare all'estero, in Polonia, senza ma... più un centesimo in tasca. Grazie, Pietro, grazie. Però non sta facendo un bel servizio alla FIOM, dicendo... Ma lascia perdere la FIOM. lascia perdere la Fiom. Qua il problema è che questo imprenditore dice che lui non ci guadagnava più dal 2008 con questa azienda, e allora o la nazionalizziamo, come diceva Pietro, ma chi se la compra un'azienda che non guadagna più niente, oppure si pone il problema di cosa fare. Questo imprenditore ha deciso di fare così, in una maniera maldestra, e secondo me ha sbagliato andarsene senza provare a fare una trattativa vera con i sindacati o con i lavoratori per provare per esempio a diminuire un po' il costo del lavoro, se questo poteva servire a salvare il lavoro. Se quello che ci ha detto è vero, cioè che i bilanci non garantivano più da 5 anni i guadagni per questa azienda. Dopodiché poi il resto dal punto di vista di Pietro, però sul fatto diritto sociale, l'esproprio, non so se Pietro è ancora lì in linea, no, non ce l'abbiamo più, poi non ascoltavo, quindi non siamo riusciti a parlare, male. Claudio da Torino, buonasera, prego. Quello che volevo dire io è l'opposto di quello che ha detto il sindacalista comunista di prima. Io non sono un imprenditore, non sono un padrone, ho sempre stato il dipendente, sono oltre 40 anni. E non capisco come lei non faccia capire che la mentalità che c'è in Italia è contro l'iniziativa imprenditoriale. Io non faccio... Nessuno si chiede perché le imprese italiane vanno all'estero. Ma lei ce l'ha con me, scusi Claudio. Claudio, scusi, un altro che non ascolta stasera. Lei ce l'ha con me perché... No, non con lei in particolare, non con lei. No, perché ha detto, mi chiedo come lei non faccia capire. Prego. No, non lo so, Claudio, cosa voleva dire? Faccia il suo intervento. Io volevo dire che la mentalità che si è diffusa in Italia è anti-imprenditoriale, perché finché abbiamo delle persone che rappresentano la maggioranza dei sindacati, che continuano a suonare contro il padrone ladro, evasore fiscale, eccetera, eccetera, e quando, oltretutto, quando c'è una causa di lavoro, il 90% dei casi i giudici del lavoro danno ragione ai sindacati e ai dipendenti, il mondo imprenditoriale non crescerà mai, ed è inutile parlare di IMU come fa lei, perché l'IMU è una cosa. No, ma guardi, l'ho detto io, ma Pedroni era d'accordo, ha detto che l'IMU a lui non gli interessa, lui voleva un'altra cosa. Pedroni veniva a pagare la mia IMU, io sarei in questo caso contento. Il vero problema dell'Italia è che non c'è una mentalità favorevole all'impresa. Vabbè, questo lo dice lei, Claudio. Questa è la tesi di Marchionne. Questa è la tesi di Claudio. Ascolti un attimo. Abbassate, Claudio, perché non se ne può più di ascoltatori che non ascoltano. Claudio, ascolti un attimo. Questo lo dice lei, ed è quello che dice Marchionne. Non è che in Italia, siccome c'è la Fiom, allora non è un paese dove si può fare industria. In Italia c'è la Fiom, c'è la Confindustria, ci sono i magistrati, ci sono tante cose. Che poi fare industria sia complicato, questo è possibile. Però qua il problema è un altro. È che questa impresa non faceva più utili, quindi non è colpa della Fiom o di Confindustria o di qualcun altro, è colpa del fatto che c'è una concorrenza internazionale, avevano delocalizzato i concorrenti di questa impresa altrove, guadagnano di più pagando di meno gli stipendi in Polonia, e questo è quello che ha fatto Pedroni, ha capito? Non è che è una questione di mentalità italiana. Altro discorso è quello del cuneo fiscale, cioè del fatto che sullo stipendio dei lavoratori si pagano troppe tasse, chissà quante tasse anche inutili ci sono sopra, sarebbe una bella inchiesta da fare questa, però poi chissà come mai i parlamenti passano ma nessuno abbassa mai il cuneo fiscale, e questo sarebbe a domandarsi come mai. Claudio, c'è ancora? Sta ancora parlando. Ripeto, lei che è un giornalista della Confindustria. Non ha sentito quello che ha detto, Claudio. È troppo diffusa. Va bene, grazie, arrivederci. Gabardini, hai sentito, Claudio? È pazzesco. Ho sentito assolutamente. Mi sa che era il cugino di Ulisse. Ti ricordi di Ulisse? Settimana scorsa. Sono parenti sicuramente. Vabbè, dove andiamo? A Gino che ci chiama da Treviso. Cambiate gli numeri che si telefonano. Sono gli stessi, sì. Se lo passano. Gino, buonasera. Sì, buonasera. Dunque, io intanto volevo solo intervenire su un fatto. La signora, i falchi o falchetti del PDL, quelli che si ci vogliono sempre ricordare a noi coglioni che abbiamo votato a sinistra, che loro sono 10 milioni e che bisogna... Vorrei che si ricordassero che di fronte ai loro 10 milioni, dall'altra parte ce ne sono 20 che non la pensano come loro e che vorrebbero che le cose andassero in ben altra maniera. Quanto al fatto di prima del che diceva quel signore che non c'è imprenditoria in Italia, io sono un liberale di quelli un po'... mi rifaccio al vecchio buon Lamalfa Ugo, quello che voleva fare la politica dei redditi, quello che veniva definito una Cassandra, quello che ci diceva state attenti, ci siamo molto allontanati da quel liberalismo, siamo finiti in mano ai liberisti, e sono quelli che stanno distruggendo tutto adesso, sono i liberisti alla Berlusconi, va bene? Quello non è un liberale, ha imbrogliato anche i liberali, sta fregando anche i liberali, perché sono molti anche quelli del ceto medio, della media imprenditoria, che sono stati fregati da loro. Va bene, loro Gino, pensano, grazie. Pensano solo ai servizi, ai servizi, e la manualità, tutto il manufatturiero dove va a finire? Grazie Gino, grazie. And now, the good news! Dall'Università di Pisa arriva la T-shirt intelligente, che grazie a sensori ed elettrodi monitora lo stato emotivo dei pazienti psichiatrici. Il progetto, che coinvolge 10 paesi europei, sfrutta un'innovativa tecnologia sviluppata da una società di Navacchio, vicino Pisa. È la maglietta della salute mentale. Allora, sentiamo Canzio, che ci chiama dalla provincia di Ravenna. Buonasera. Buonasera. Prego. Io non voglio generalizzare, non voglio schierarmi dalla parte contro o a favore di quell'imprenditore, però posso capirlo ma non giustificarlo. Mi spiego. La paura dei sindacati. Allora, io ho una piccola azienda dove si convive benissimo. Due o tre episodi con i sindacati che non è proprio per, ho messo la videosorveglianza eccetera, non avevo nessun obbligo di comunicarlo ai sindacati in base a quello che mi è stato detto dal comune della regione, l'ho voluto fare perché si deve convivere con i sindacati, sono parte anche loro delle aziende, CIS, UIL, nessun problema, CGL ha avuto problemi. Ha avuto problemi sulla videosorveglianza dell'azienda? Solo per ricevere il mio avviso, solo per riceverlo. Una cosa indecente. Rappresentante sindacale, non è mio obbligo, però siccome noi viviamo continuamente con i nostri operai roba, mi è venuto un giorno così per caso un'idea, se lo istituissi potrebbe essere meglio. CISL, UIL, si è ragionato roba, CGL subito diffidenti perché questo maledetto imprenditore, mi scusi tra virgolette. L'ultima, abbiamo fatto mesi fa un'integrazione al contratto, migliorativa, ma non perché lo dico io. In due o tre punti, quelli dei rappresentanti CISL, dei rappresentanti UIL, hanno fatto fatica a far capire al CGL che era migliorativo. Non è previsto nel contratto, non è previsto, ma è migliorativo. Cioè, loro stiamo dando più soldi. Avete difficoltà a dialogare con la CGL, quindi diciamo per traslato. No, noi abbiamo sentito uno della FIOM, però ecco, sarebbe interessante sentire uno di un sindacato diverso dalla FIOM, che cosa ne dice adesso della FIREM di Modena. Grazie intanto a Canzio per la sua testimonianza. Andiamo a Giuseppe, che ci chiama da Grosseto. Buonasera. Giuseppe? Non lo sentiamo. Gianluca, allora, da Parma. Buonasera, Gianluca. Buonasera, dottor Maurizio. Vorrei sottoporre all'attenzione della trasmissione un dato che ho appreso tramite telegiornali circa il numero degli sbarchi di clandestini in Sicilia. Si parla di 9.000 persone in 40 giorni, 1.000 nelle ultime 24-48 ore. Secondo me è un problema che anche senza avere risvolti di tipo razzistico o politico, mi sembrano dei dati veramente allarmanti, e mi chiedo, ecco, dove andremo a finire, senza contare che mi pare che l'emergenza questa volta non sia stata sbattuta, diciamo, in prima pagina come altre volte, ma mi sembra molto molto importante, ecco. Volevo sapere cosa ne pensa dal punto di vista proprio matematico. Ecco, senza... Va bene, Gianluca, cosa vuole che ne pensi? Niente, ci sono d'estate questi momenti di accelerazione del numero di sbarchi. Fortunatamente poi in altri mesi dell'anno non è così, facciamo una media e vediamo quali sono i conti. Dopodiché poi è chiaro che per noi è un aggravio, è un problema. E ci vorrebbe sicuramente, ma lo dicono tutti, insomma, un impegno europeo di qualche tipo lì a presidiare quelle frontiere. Grazie Gianluca. Adesso invece una bella storia per tirarci un po' sul morale. Abbiamo parlato di difficoltà a fare impresa in Italia, invece abbiamo un bel caso, una bella storia di due giovani pugliesi che ce l'hanno fatta. Niente che non si possa fare. Un aereo per stupire il mondo. Due ragazzi hanno messo le ali ai loro sogni. Così ha titolato Repubblica qualche giorno fa a proposito di questa storia di imprenditoria. Loro sono Angelo Petrosillo e Luciano Belviso. Hanno tutti e due 30 anni, sono pugliesi e hanno fondato l'azienda che si chiama Black Shape Aircraft. Non so se ho pronunciato bene all'inglese. Petrosillo, buonasera. Corretto, buonasera a voi, buonasera a tutti. Allora, complimenti intanto, perché voi fate aerei ultraleggeri? Non solo. Noi abbiamo iniziato due anni fa con un velivolo ultraleggero e adesso siamo cresciuti di categoria fino a un velivolo di aviazione generale, praticamente da 750 kg al decollo, quindi facciamo tre modelli diversi. Ma sempre aerei civili, insomma, per... Sì, per l'addestramento, sia per, diciamo, per scopi leisure, quindi di privati che utilizzano l'aeroplano come mezzo da diporto, sia anche per l'addestramento. E ne avete venduti molti, soprattutto all'estero? Sì, più di 100% all'estero. Tutti all'estero, vabbè, questo poi, se c'è mercato, non importa. Quindi, da quanto tempo è iniziata questa avventura? Come è venuta l'idea di produrre aerei in Puglia? C'è un distretto di un certo tipo da questo punto di vista in Puglia? Sì, in Puglia c'è un distretto importante che tra l'altro è specializzato sui materiali compositi. Come lei probabilmente sa, in Italia ci sono tre distretti aeronautici, l'ala rotante in Lombardia, le leghe di titanio e l'alluminio in Campania e il carbonio, la fibra di carbonio e i materiali compositi in Puglia. L'abbiamo appreso adesso perché sui tre distretti non è che eravamo proprio preparati, quindi diciamo in Puglia c'è un distretto sulle materiali che servono anche per fare gli aerei e anche altre cose, immagino. In questo caso Puglia si fanno due pezzi del 787 Dreamliner, tanto per dire che è l'aeroplano di linea in questo momento con la più alta percentuale di composite. No, infatti che ci fosse in Puglia un distretto legato all'industria, insomma, della costruzione di aerei, questo sì. Avete sfruttato questa cosa, voi siete di Monopoli? Io sono di Monopoli e Luciano, che poi è l'ingegnere aeronautico, che è il vero ispiratore, diciamo, del progetto, è di Bari. Ecco, comunque, mi stavo dicendo, da quanto tempo è partita questa vostra impresa? Noi abbiamo costituito 3 anni fa, nel senso che noi avevamo fondato l'azienda io e Belviso, veramente Belviso e io, con un piccolissimo aiuto di 25.000 euro che c'era stato dato dalla Regione Puglia per le idee di giovani, diciamo, che avevano voglia di fare impresa. Quindi questi concorsi, come tanto si sentono dire, le regioni, anche la Lombardia ogni tanto dà dei fondi per le giovani imprese, le idee, eccetera. A volte ci si domanda come vanno a finire questi concorsi, serviranno a qualcosa finanziamento a queste start-up, e voi siete un caso felice. Io le dico una cosa che per quanto mi riguarda è molto importante e credo che abbia un valore anche generale, al di là del caso di specie. Noi abbiamo deciso di tornare dall'estero, dove eravamo, nella fattispecie eravamo a Parigi, perché volevamo tornare in Puglia innanzitutto, volevamo tornare a casa dopo aver fatto una serie di esperienze all'estero, ma soprattutto perché eravamo convinti di voler partecipare a questo bando ed avevamo la certezza che sarebbe stato trasparente. Se non avessimo avuto la certezza che sarebbe stato trasparente, non avremmo mai partecipato. Cioè, voglio dire, quindi che vuol dire, insomma, un messaggio importante che bisogna dare in quando ci sono questi bandi è quello è fondamentale, che veramente viene premiato il merito, così si attraggono insomma le intelligenze migliori. E benissimo, quindi avete fatto questo bando 3 anni fa, avete preso i soldi e il bando un po' più di 3 anni fa, 4 anni fa, abbiamo preso questi 25.000 euro, abbiamo iniziato la nostra attività e poi c'era un bando più importante da 350.000 euro che finanziava le imprese, le start-up innovative, quindi diciamo che finanziava un progetto industriale. Il piccolo particolare era che per accedere a questo finanziamento era necessario controgarantire con una fideiussione bancaria per 150.000 euro, perché purtroppo grazie ai furbi che hanno approfittato dei bandi per 20 anni, quegli onesti devono garantire il fatto di essere onesti. Quindi avete dovuto trovare la banca per fare questa cosa qua e l'avete trovata? No, la banca non l'abbiamo assolutamente trovata, ne abbiamo girate 36 e nessuno ci ha dato i soldi. E alla fine io ho incontrato per strada a Monopoli, a una settimana dalla scadenza della deadline per presentare la fideiussione, un imprenditore che si chiama Vito Pertosa, che tra l'altro è il proprietario di Angelo Investments, che è un fondo di investimento specializzato in PMI ad alto valore tecnologico, che l'ho incontrato, l'ho fermato, come si fa quando si è disperati, mettiamola così. e gli ho parlato del progetto e lui mi ha detto: mi interessa, ti chiamo lunedì, era venerdì, mi ha chiamato lunedì e il venerdì della settimana dopo avevamo le garanzie, abbiamo costituito e siete potuti partire, quindi diciamo anche un aspetto di favola all'interno. Quante persone adesso collaborano con voi, lavorano con voi a questa attività? Allora, noi eravamo 2 anni fa 2 dipendenti, io e Belviso, e adesso siamo 70. Accidenti, con l'obiettivo però. Con l'obiettivo di arrivare a 100 entro la fine del 2015. Beh, complimenti. Complimenti per quello che fate. Per, no, facciamo il nostro dovere, niente di più e niente di meno che il nostro dovere. Beh, ci avete avuto l'idea giusta, avete trovato le vie anche istituzionali giuste, i fondi, una mano insperata in questo imprenditore che vi ha coperto le spalle. Adesso però state decollando a tutti gli effetti. Grazie. Allora, grazie a voi. D'Angelo Petrosillo della Black Shape Aircraft. Anche per questa sera è tutto, Gabardini. Eccomi. Ti piacciono gli aerei ultraleggeri? Te ne comprerai mai uno? Non credo proprio. Nemmeno assolutamente. Io, assolutamente. La domanda era da fargli era chi se li compra, però insomma li hanno venduti. Grazie a tutti, buona serata. Alessio Maurizi, Carlo Gabardini, Riccardo Buccello, Andrea Piana in redazione, Valeria Bernardi in regia. Ci troviamo domani dopo le GR delle 18. Si può fare l'attualità anche d'estate. A domani. Sì!